Benvenuti al terzo episodio di Mitsu Sugone Triforce o Triforce, come volete voi. Siamo ancora qui, c'è Vario Punk, Pietro Turri, sono qua. Scar the Pumpkin, Claudio Turri. Ar. E poi abbiamo Rixcan, non mi ricordo l'anno. 4. È qua. Rixca 4, Riccardo Prati. Ciao. Ecco. Aspetta, devo mettere show your books, vabbè. E Marco, anche questa volta l'ospite speciale, Marco Girardi, Gira 93. Ciao. Ecco, anche lui è stato contagiato dall'enfasi sì. di Riccardo. Eh sì. Quindi bisogna aiutarli con non lo trovo. Questo qua. Show me a moves. Ecco, perfetto. E iniziamo subito questo episodio parlando di Rixka, parlando di... Ah, io? Devo parlare io? Eh sì, hai Mi sono detto che volevi deciso. essere il primo. Non ho detto questo, però Ok, si parla noi abbiamo detto di questo Dota, mentre tu non eri di con... No, MOBA, aspetta, ti cioè stavo... in particolare di quei Ripeti, giochi. ti sto parlando sopra, ripeti. Lo so, parlerò di MOBA, cioè tutti quei giochi che derivati da Dota, un gioco, la famosa mappa di Warcraft 3. Cosa dire? Praticamente questo genere di giochi nasce quando Un uomo incontra una donna. no, non proprio in questo modo, ma quando un gruppo di appassionati di Warcraft 3 decide di creare una mappa alternativa, diciamo che alla fine si rivela un gioco completamente diverso dal classico RTS di Warcraft 3. Questo tipo di gioco ovviamente ha spopolato tra i giocatori, tanto che Tranne me. ormai, esatto, tanto Quando che io ormai giocavo a c'è più Warcraft 3 ho gente che giocato gioca. Dota 2 volte, credo, e mi Attualmente sono c'è. divertito. Attualmente c'è più gente che gioca a Dota che Warcraft 3 base. Sì. E siccome Warcraft 3 ha un ottimo diciamo, sistema di mappe custom in questo modo, si integra perfettamente anche sul servizio online battle.net. Ovviamente, arrivato a un certo punto, sai, una mappa custom di un gioco è un po' limitata. Sono iniziati a uscire giochi che hanno le stesse caratteristiche di Dota, ma sono giochi a parte, Diciamo come che Dota non è stato registrato, esatto, non è no? un E quindi marchio registrato. è diventato, Anzi, no, diciamo, un ora come genere. ora Defense of the Ancients, non mi ricordo chi è stato registrato. Sì, il nome, però praticamente ha creato un genere e ci hanno mangiato su sto genere. Esatto, perché comunque se non ci fosse uscito Dota, Warcraft 3 sarebbe, non dico morto, ma di Dimmi. vicino. Ti posso dire, io 2 mesi fa, no, a maggio tipo, sì, più di 2 mesi, ho giocato su Battle.net e facevi fatica a fare una partita all'RTS perché erano tutti a fare le custom di Dota, ma tanta gente, tanta. Esatto. Ma perché comunque è un gioco un po', come dire, alternativo, non c'entra niente con l'RTS Dota alla fine, Ha solo la grafica. semplicemente la grafica e diciamo, la visuale isometrica. Ovviamente, sai com'è il sistema Dota, essendo una mappa custom, come ho già detto, è un sistema che ormai è un po' obsoleto, sono iniziati a uscire quindi giochi che, diciamo, a parte il fatto che puntano anche a guadagnarci sviluppando Dota in questo modo qua, quindi hanno, solitamente sono giochi tipo free to play come Heroes of New Earth o giochi come quello della Valve, Dota 2, che deve ancora mi pare uscire in versione ufficiale, ma è già presente una beta molto avanzata e molto funzionale, che punta a guadagnarci vendendo item grafici tipo cappellini, skin, queste cose qui a pochi euro, Hai diciamo. dimenticato League of Legends. League of Legends l'ho tralasciato apposta perché League of Legends è un pochino diverso dal Dota classico, cioè non è, praticamente ha molte differenze nello stile di gioco, anche se è comunque sempre dello stesso genere. Infatti tipo Heroes of New Earth e Dota 2 sono copie, diciamo, sputate di Dota con delle modifiche nel sistema anche di acquisizione degli eroi. Tipo in Heroes of New Earth, gli eroi li devi comprare in valuta virtuale, oppure puoi comprarli più velocemente con la valuta, cioè pagando i soldoni. Soldoni poi, con tipo 5 euro ti compri 3-4 eroi, quindi non è che... Sì, oppure te li puoi guadagnare, mi sembra, facendo tante Esatto, partite. in valuta virtuale. Ah, ok, Semplicemente sì. si tratta di fare partite, guadagni questi crediti silver che tu spendi in eroi. Ovviamente questi giochi qui puntano a farti un buon guadagno, più che altro sul numero di utenza. Quindi Hero Universe è uscito inizialmente con tutti gli eroi disponibili a 15 euro. Poi dopo hanno iniziato, siccome la gente non, iniziava a non giocarci perché non voleva spendere 15 euro di botto, hanno È iniziato a metterlo gratis. free to play, e anche se alla fine il maggior successo l'ha ottenuto League of Legends, perché è nato direttamente gratuito, ha un sistema di gioco un po' diverso dal dota normale, e la gente è Se piaciuto molto. in questo momento andate sul sito di Heroes of New Earth, vedrete l'eroe della settimana, Oghi. Vabbè. Comunque, questa formula free to play ha dimostrato con i giochi coreani, ad esempio, che rende molto. Rende molto perché la gente è spinta a giocarci, perché comunque è gratuito, tu basta che scarichi e puoi già giocare, e poi quando magari stai giocando ti viene da comprare quella cosetta a 5 euro, quella cosa lì, Eroe bello, eccetera. Esattamente, bello, lo vuoi subito. e quindi, ma poi più che l'eroe subito, molti pagano anche solo per le skin, così, perché magari c'è quella skin bella che piace molto, che però è solo a pagamento, non ti avvantaggia nel gioco, quindi non c'è niente di male nel averla solo a pagamento, però magari la vuoi e ci spendi un po'. Poi soprattutto in questi giochi qua, sinceramente non c'è questa necessità di spendere. Ci sono altri giochi di categoria free to play dove spendere è quasi essenziale ad un certo punto del gioco. E quindi diciamo che ti fregano, diciamo, perché tu pensi di giocare a un gioco gratis, ora dici gioco a questo qui, non pago i 13 euro di World of Warcraft, e poi va a finire che al mese ci spendi di più in cosette, diciamo, incavolate. E in più sai che sei sempre che chi spende di più è sempre avvantaggiato, quindi invece in League of Legends non sei avvantaggiato, anche in Heroes of New Earth. Se sei bravo a giocare. Se sei bravo a giocare, batti comunque tutti, anche senza mai spendere un centesimo. E prima di passare alle differenze tra questi giochi, spiega in generale un MOBA come funziona proprio il gameplay, cosa devi fare. Allora, un MOBA praticamente hai un eroe, diciamo, che tu scegli all'inizio. Ci sono vari tipi di eroi che hanno varie abilità diverse. Tu parti sempre dal livello 1. Ogni tot di secondi, dopo seconda del gioco un po' cambia, però ogni tot di secondi prendi un tot di oro che puoi spendere in oggetti per potenziare il proprio personaggio. Tu semplicemente dovrai giocare partendo dalla mappa, cioè la mappa non sarà altro che due basi, una opposta all'altra, un avversario all'altra. Si gioca in 5 contro 5 di solito, in League of Legends c'è la variante 3 contro 3. La mappa sarà composta da tre, diciamo, corridoi, diciamo, si chiamano lane, dove prendere file di creep, cioè di mob neutrali, cioè di unità neutrali, si scontreranno, e tu dovresti invece ammazzare queste unità neutrali e fare esperienza e gold, finché arriverai allo scontro con altri eroi, diciamo, e dopo lì dovrai provare a cavartela. Ovviamente oltre alle lane in mezzo ci saranno le cosiddette giungle, dove ovviamente ci saranno altri, diciamo, unità neutrali più potenti, dove alcune classi sono avvantaggiate e faranno più esperienza girando lì dentro e cercando di evitare lo scontro diretto. Creep, sono i creep, no? Creep, esatto. Creep. Ah, parlando di creep, esatto, Che ho detto brutta una la vita. cavolata. I creep che nelle lane non sono neutrali, saranno per fazione, si scontreranno in mezzo e ti aiuteranno a distruggere le cosiddette tower. Cioè, ogni fazione, in ogni lane ci saranno tre torri. Queste tre torri sono molto, cioè, molto devast saranno devastanti, saranno, se tu ci vai da solo. E il tuo scopo è tirarle giù per arrivare alla base avversaria e distruggere la la base avversaria. Dopo, a seconda del gioco, è diversa. La base sarà diversa. In Dota, mi pare, c'è il cosiddetto antico che dovrei uccidere. In League of Legends sarà il cosiddetto Nexus, che è una struttura da distruggere. Stessa cosa in Dota 2, che non è il Nexus, ma ha un altro nome, ma è sempre lo stesso concetto: distruggere una costruzione. Comunque, di base, livelli l'eroe finché non sei abbastanza forte da guidare il tuo esercito a sfondare esatto. Le barricate della città nemica. Ovviamente è un gioco di coordinazione, tanto di giocare coordinato le altre quattro persone. Certo, perché se tu lasci libero un fronte e senza gli altri eroi che parano, arrivano i nemici e fanno piazza. Esatto, magari ti si organizza, tipo che sai che in un fronte c'è una sola persona, cerchi di fare un blitz veloce e uccidere quell'eroe andando in 3 contro 1, magari, velocemente. Sì. Per questo magari si avvantaggia giocando con una chat vocale come Skype, eccetera. Ovviamente questo qui, diciamo, da Warcraft 3 prende il fatto che in Warcraft 3 è un RTS diverso da altri del suo genere, perché, a differenza di altri RTS, ha il cosiddetto eroe, cioè un'unità più potente, da cui ovviamente è stato preso la Dota. Dota si è preso prende questo eroe e incentra tutto il gioco nell'eroe, diciamo. Ed è il punto di forza, perché ad esempio io sto guardando gli eroi disponibili in League of Legends e solo guardando certi eroi mi viene voglia di giocare, perché sono dei robot che sono bellissimi. Tipo il bellissimo Blitzcrank, vabbè. Vabbè. Comunque è un gioco che non ha niente a che fare con gli RTS se non per il sistema di movimento. Certo. È uno di quelli che è nato dalle mod, come ad esempio il genere Tower Defense è nato dalle mod di StarCraft e Warcraft. Adesso è considerato proprio un genere il Tower Defense. Vabbè, un po' come Dota. Dota ormai viene Sì. chiamato MOBA, che vuol dire Multiplayer Online Battle Arena. Perché se niente, nessuno sapeva che nome dargli, perché è un genere nuovo, completamente nuovo. Sì, Dota era Defense of the Ancients. Sì, perché Sì. si basava sul fatto che tu avevi un cosiddetto antico in base che doveva venire ucciso. Ed ecco, e vinci la partita quando lo uccidevi. Ce n'era uno, scusa, una mod di Dota che se a un certo punto della partita, mi sembra un'ora, nessuno aveva ucciso l'antico, usciva sto pecorone volante che Sì, ammazzava tutti. ma non è una mod, è proprio funziona così di Dota classico. Ah, ok, però in quella versione lì c'era la pecora volante, Ma gigante. sì, c'era la pecora volante, Ah, normale. allora era moto normale, Dota normale, scusa. Sì. Praticamente, quando se uno lo uccidevi, partivano queste cazzo di pecore e se tu non avevi il personaggio livellato al massimo, ti ammazzava in un colpo, se no ti ammazzava in due colpi, quindi. Equilibravano, se c'era uno troppo debole era fuori. No, era il Sì. pareggio, dai, se nessuno ce l'aveva fatta morivano tutti. Alla fine sì, potevi cercare di resistere, magari quello che resisteva di più magari vinceva, proprio Sì. dipende. Ovviamente comunque di Dota c'erano comunque sì delle mod anche di Dota stesso, perché ovviamente essendo una mappa custom la potevi comunque modificare. Certo, tu quando scaricavi la mappa per giocarci potevi anche. Mi sentite? Sì, Sì, sto sì. sentendo. No, è che Skype mi ha appena detto che non ho il microfono, però se mi sentite vuol dire che ce l'ho. Va E benissimo. dicevo, Dota, in Warcraft 3, quando tu giocavi a una mappa di queste modificate, te la scaricava anche, e siccome Warcraft 3 aveva l'editor integrato, se tu riuscivi a capire qualcosa di programmazione, potevi modificarla a tuo piacimento. Ma era tutto un drag and drop, non è che Era un così. drag and drop per la grafica, però gli eventi, i trigger, le telecamere, quello andava fatto Sì. sapendo dove dovevi mettere le mani. Ovvio, ovvio. Se tu sapevi come mettere le mani, ricreavi la campagna di ti creavi una nuova campagna di Warcraft 3, per dire. Volendo sì. Infatti è molto molto bella questa cosa delle mappe custom che ti Sì, consentono di anche aumentare la perché longevità del gioco. in Warcraft 3 e in StarCraft c'era una varietà assurda, tanti minigiochi molto belli. Comunque, sì, dai, praticamente la mappa più famosa è Defense of the Ancient All Star, Sì. però dopo chiunque poteva, che si può scaricare da playdota.com, sito ufficiale, diciamo. Adesso invece focalizzati sulle differenze tra i tre MOBA di cui stai parlando. Vediamo un po' cosa Allora, cambia dall'uno all'altro. parliamo allora, Dota già lo mettiamo in un cantuccio, parliamo dei tre MOBA nuovi, quelli. Dota è già uscito o c'è la beta e basta? Dota 2 sarebbe una beta, ma è una beta molto avanzata. Si può addirittura comprare la beta con 20 euro, ti puoi accedere direttamente all'invito subito. Se no, basta aspettare l'invito. L'hai provato te? Sì, l'ho provato. Diciamo che alla fine cerca di rispecchiare più che altro Dota classico, però facendo dei miglioramenti in quello Vado a che vedere il roster dei personaggi di Dota 2 che non ho ancora visto. è. Diciamo che allora, Dota 2 e ON sono giochi che tentano di ricopiare il più possibile come era Dota classico, facendo modifiche, miglioramenti, però cercano comunque di mantenere lo stesso stile di gameplay. LOL invece è un gioco che comunque si differenzia molto, perché allora, prima di tutto, su LOL, avanzando di livello come account, tu l'account ha 30 livelli, come ce l'ha anche Dota e come ce l'ha anche ON, solo che Dota 2 e ON, i livelli sono solo per mostrare la tua esperienza, come dire, quanto sei bravo. In LOL invece hai dei potenziamenti a seconda del livello, quindi diciamo che quando vuoi iniziare a giocare seriamente, devi cercare di arrivare prima possibile al 30 per poter giocare al massimo, diciamo, come è stato concepito il gioco. E Sai questa è una differenza abbastanza sostanziale. una cosa divertente, tutti e tre hanno le icone disegnate a modi allo stile Blizzard. Forse quello che la meno Blizzard è Dota 2, che è la più cartoon. Ma forse LOL è più cartoon, a dire la verità, eh. No, ma proprio se ci guardi, lo stile dell'icona è quello della Blizzard. Invece Dota 2 è già più vettoriale, meno fumettoso. Ah, boh. Vabbè, prosegui. Allora, poi proprio anche la modifica nel gioco stesso, quando tu giochi hai due abilità in più che sono comuni tra tutti, che tu entrai, una quindicina di abilità in comune tra tutti i personaggi che puoi scegliere. E questa in Dota non c'era, e neanche ovviamente in ON e in Dota 2. In più c'hai una cosa che si chiama Recall, che ti consente di tornare in base quando ti pare, senza bisogno di avere degli oggetti speciali, quelle scroll, le town porta scroll, Sì. che erano, ovviamente era senza averle, perché sennò rischiavi di non poter tornare in un momento in cui dovevi tornare. Invece in League of Legends hanno risolto subito questa cosa, ha messo il recall e basta. Dota 2 della Valve, vero? Quelli di Sì. Steam. E ovviamente mi pare sia ancora in corso una causa legale, perché la Blizzard ovviamente non gli piace il fatto che attraverso una mod di un proprio gioco la Valve si stia guadagnando. Faccio i soldi, sì. Devo dire che il grafico che hanno scelto per Dota 2, tra tutti, è quello più bravo. C'hanno veramente belle le artwork dei personaggi. Sono belle tutti e tre, però Dota 2 la vince, mi sa. La Dota 2 è anche più recente come concept. Cioè, contando che è ancora in beta, ti fa capire che è in beta da un anno circa, mi pare, o di più, però ti fa capire comunque è un gioco più recente. È il solito concetto di beta a pagamento, almeno qui lo dicono che è una beta, perché ultimamente i giochi, come direbbe Calavera di Arena 80, Ma ce li sì. fanno giocare in beta e poi fanno uscire le patch praticamente. Esatto. Diciamo che no, Dota, quando tu l'ho scaricato su Steam, ti dà due versioni. La versione test, che è la versione, penso, quella più buggata, quella con più problemi e tutto quanto. E la versione, non c'è scritto niente, è scritto solo Dota 2. Tu la Versione apri. bugged e versione unbugged. Sì, diciamo che è la versione giocabile, la versione dove trovi un sacco più gente, dove non testano le cose che, diciamo, prima le hanno testate sulla versione test, e poi le fanno andare lì. Però dicono che ancora, come dire, più che altro non è beta perché per numero di bug o roba del genere, è beta perché semplicemente perché è closed, cioè devi avere l'invito, devi farti spedire l'invito, cioè tu Sì. devi registrare e farti spedire l'invito, a meno che non vuoi spendere i soldi per avere subito l'invito. Una volta Insomma, finita la beta, il gioco sarà gratis o a pagamento? da quel che dicono sarà gratis, completamente gratis, senza sistemi come LOL, eccetera. L'unica cosa a pagamento sarà semplicemente lo shop dove Ah, comprare. come C'è Team già, Fortress. puoi già comprare. Come Team Fortress. Ok. Quindi praticamente alla fine tutti e tre i MOBA principali sono gratis. Alla fine sì, semplicemente hanno un sistema free to play Sì. diverso. ON e LOL hanno un sistema simile. E Dota 2 cerca di differenziarsi. Ok. Hai altro da aggiungere su particolare, tipo, non so, sì, tu li hai provati tutti e tre, no? Hai notato uno eccelleva di più magari nei modelli dei personaggi, nella Allora, grafica, nella musica? questo no, non saprei fare un paragone, semplicemente dico che League of Legends ha la curva di apprendimento molto più semplice, cioè da qualunque persona fa prima imparare a giocare a League of Legends che è un Dota e un Dota 2, o un Hero Universe che più o meno sono simili, e invece Dota 2 o Hero Universe sono comunque più complicati da imparare a giocare. Ovviamente non niente a che fare con la curva di apprendimento di un Warcraft 3, cioè, secondo me è molto più semplice giocare a Dota che a Warcraft 3 liscio, però sono comunque giochi abbastanza complicati che ti richiedono di fare molte partite per imparare a giocare. Una cosa interessante che mi sembra sia di League of Legends, non sono sicuro che, o forse Earth, Heroes of New World, è il tribunale, vero? Tribunale di League of Legends, Ok, League of praticamente Legends. quando tu Perché in sei questi livello giochi 30. online, purtroppo, è pieno di ignoranti che fanno i troll, si divertono a far perdere le partite agli altri. E una volta, in Battle.net di StarCraft o Warcraft, non ci potevi fare niente. Tu perdevi perché sto qua o giocava contro di te, o lasciava la partita, o non giocava, stava lì, guardava lo schermo e guardava i suoi compagni perdere. Allora qui hanno introdotto il tribunale. Spiega, Riccardo. Allora, in League of Legends c'è il tribunale che ti consente di votare il ban di qualcuno a seconda dei log, diciamo, ti fa vedere i log, conversazioni così, e tu puoi votare se bannarlo o meno, però devi essere ovviamente livello 30 con l'account. Invece però anche a prescindere dal tribunale, se una persona sta AFK, cioè non gioca, ti chiama away Away from computer. La K è così per bellezza. Keyboard, comunque. Ah no, from computer. La K è per bellezza. Sei tu che sbagli. Vabbè, Sì. scherzo. Ovviamente. praticamente ha un sistema. Oppure quitti la partita così, senza motivo. Dopo un tot, c'è un sistema automatico che ti banna. Cioè ti impedisce di giocare. Che aumenta progressivamente. All'inizio è 24 ore, 3 giorni, una settimana, 2 settimane, un mese, La banna vita, morte. banna vita. La morte, la morte. Ti arrivano a casa 5 eroi random di Heroes of New World, no, di League of Legends, Sì, e ti ovviamente decapitano. è probabile. E il sangue della tua testa verrà usato per gli sketch dei personaggi che Secondo verranno me creati la settimana successiva, è una eh? cosa molto azzeccata, secondo me è una cosa molto azzeccata, perché Cioè. è molto, diciamo, dà molto fastidio quando una persona ti rovina le partite, a parte che le partite possono durare anche 40 minuti. Uno che ti. Anche di più alla fine, durano No, circa 40 poi, minuti. come dici te, la morte è la punizione se l'hai fatto 6-7, no, se 6-7 volte sei stato richiamato, quindi vuol dire che l'hai fatto talmente tanto da. Sì, da meritarti la morte. Sì. No, ovvio che può capitare a volte, so, disconnessioni a caso, tipo, so, ti salta la luce, ti esplode il computer. Ok. Però Ci può non ci capitare credo che ti capiti 6 volte di seguito. 6 volte e in più. Prima della morte vieni bannato per 2 mesi. Te in quei 2 mesi non hai fatto niente e ritorni a giocare in quel modo, dai. Oh, ecco, sono venuti a ammazzare, lo sapevo. Sì, esatto. Riccardo, Sì, ci sono. sempre da fare. Sono contrastati. Parla. La testa parla, ma il corpo non c'è. Portato via gli eroi. Ma la registrazione tanto la deve fare la testa, mica No, il corpo. Riccardo è uno che gioca sportivo, non è uno che, se dovete giocare con lui in multiplayer, non preoccupatevi, lui non fa il team killer e non fa AFK, ovvero away from computer con la E K. anche se ha una testa giocherà comunque con la lingua. Col Power Glove. Sì, userà Senza anche mani. quello. Senza mani. No, te ti scherzi, esiste gente che gioca, cioè uno che è senza una mano, che comunque dice che era uno dei più forti su World of Warcraft. Ah, lo so, dopo ne Come parleremo di. giocasse non lo so, però Dopo, era tramite un forte. argomento che voglio introdurre, parleremo di anche di queste cose. Gente Non in senza mo mani che non in gioca? modo divertente, in modo serio. Sì. in modo divertente, andatevi a vedere il Power Glove, ovvero la periferica più bella mai stata creata per un videogioco. Semplicemente la foto del re dei nerd, che sarà Il anche lì. re dei nerd c'ha qualsiasi cosa. Se digitate su Google King of Nerd, mi sembra, o Nintendo, ne No, Nintendo Nerd, Nintendo Nerd, troverete il nostro re. Voi non lo sapete, ma lui è re di tutti noi. Ecco, vabbè. lui è un grande. Cioè, no, lui è un grande. E ovviamente anche il Power Glove, ovviamente. Boh, io direi che ho finito. Il bastone del potere. Tenendo premuto Select A e B, tenendoli premuti, lui ti può depixellare. Prima diventi 8 bit, poi i pixel che ti compongono scompaiono. Tipo quando spacchi le astronavi di Space Invaders. Ok, abbiamo finito di parlare del re per oggi. La prossima volta ne parleremo più adeguatamente. Magari Ci vuole una puntata intera sul Cioè, degli re. anni, questa foto sarà degli anni 80, che adesso Probabile. va. Oh, lui è re, non può morire. Ha No, infatti, 99 si vite. nutre di app. Di pixel. Di pix. Lui di caramelle rare nella vita ne ha mangiate tante. Vabbè. Un saluto al re. Prima o poi scopriremo anche come si. Vabbè, il nome non è. Parleremo. Ok, Comunque. vedo che il Power Glove anche qui, vabbè. Questo qua usa il Power Glove per bere la birra, direi che è l'utilizzo migliore per il Power Glove. Molto È una utile. cosa epica. Ok. Riccardo, hai altro da aggiungere sui MOBA? Ho detto qua tipo 4 volte che ho finito, comunque. No, la quinta è per essere. Oh, questo è bellissimo. Un Una toast. fe Un toast. con la marmellata. Con la marmellata gli hanno disegnato il DS. Adesso ve lo linko. Nintendo DS Panino si chiama la foto. Ah, ok. Incollo. Mi sa che l'ho già trovata. Ok. In sottofondo noi siamo pagati per far. Sta con un bambino. L'immagine dopo su Google è John Cena al breast che sta soffocando un bambino. Non so dove l'abbiano presa. Vabbè. E, comunque noi sottofondo facciamo pubblicità alla Nintendo perché veniamo pagati per farlo. Non dobbiamo dirlo, ma lo facciamo. Ovviamente pagati dal re. Se siete dirigenti della Microsoft, Apple o altre cose grosse tipo Ubisoft, non mi vengono in Valve, non mi viene in mente altro, potete contattarci tramite l'indirizzo dateci soldi per parlare bene di voi, @miciosegone-triforce.it, e possiamo metterci d'accordo su quanto dovete darci per parlare bene di quello che fate, nonostante Sì. quello che fate possa anche far schifo, non importa. Ovviamente se vi darà errore del tipo non esiste questo sito web, non esiste questa mail, non vi preoccupate. È una copertura per Esatto. la polizia postale. Ok, diamo i voti ai MOBA, uno alla volta. Quale vuoi iniziare? Inizia dal peggiore, vai. Per te il peggiore. Peggiore. Non saprei da dove cominciare. Insomma, allora, mi tutto Quello Dota preferito di classico sempre. direi che lo escludo perché non ne ho una grande esperienza, quindi non lo Il? voto. Dota classico. Ok. Non voglio dargli un voto perché No, non. Dota classico no, non lo consideriamo. Consideriamo Dota 2, New Worlds e LoL. Ok, Lolla. partiamo da League of Legends. Non perché sia il peggiore, ma perché è quello diverso, diciamo. È quello che hai giocato di più, poi mi sa. Sì, più o meno. Uno ha colpito King Rogue. Non Anche credo se conosci. comunque gli darei. Quante erano? 3 banane? Tre banane, dai, è il medio, normale. Sì. Sto aspettando. Che stavi aspettando. Poi farei Heroes of New Earth, che ho semplicemente provato, ho fatto solo qualche partita. E guardate il sistema, eccetera. Direi che non. Da com'è direi che gli darei 4 banane. 4? Così avendo solo provato, dici già che è meglio di LOL? Infatti ho dato la premessa solo perché l'ho provato come è gestito il sistema. Ovviamente non dico che i miei voti siano così proprio attendibili, però come no, no, sistema però, mi piace molto. Mi sorprende che ti abbia stupito così tanto il gioco. Sì, perché è molto fedele a Dota, però utilizza un sistema stile League of Legends. Ok, abbiamo un 4. Poi Dota 2 gli darei comunque 4 anche a lui, perché per il sistema. Per il sistema gratuito, diciamo, però sarebbe migliore di Heroes of New Earth, solo che sta cosa della beta che dura un anno. Dura un anno, si spera duri un anno, non si sa. Esatto, un anno, 2 anni anche ormai. Fa un po' storcere il naso ancora. Potevano Ma farlo. che tu sappia, ha molti giocatori la beta adesso. Ma io ho fatto, quando fa le partite che ho fatto, le ho trovate abbastanza velocemente. Poi ricerca partita, l'ho trovata abbastanza velocemente. Quindi è un altro 4? Sarebbe, secondo me, migliore di Heroes of New Earth, però finché è così, sì, 4. Ok. Ovviamente questi voti sono a livello tra i MOBA, non pensate che questi voti valgano in confronto ad altri giochi. Sì, ha preso in considerazione un genere dove esistono tre giochi e ha dato il voto a tutti e tre i giochi praticamente. Esatto. Sì, per adesso più o meno sono quelli. Sì, ma ne è uscito un altro, ne è uscito di MOBA, Come si che chiama? non mi ricordo, questa è Ok, la cosa divertente. perfetto, vado a vedere. Voglio vedere, sono curioso. Non l'ho cagato di striscio, diciamo, non sono andato Non a si trovarlo. dicono queste parole. Se avessi saputo che lo dicevi, ma ancora non lo potevo sapere, ti avrei censurato con qualche suono preso da un vecchio gioco Nintendo, ma possiamo provarci. Vuoi provare a ridirlo? No. Allora, No, si non chiama si Smite. sente. Non si sente. Si chiama Smite comunque il gioco. Vabbè. Me ne ho sentito parlare, diciamo, non è che perché non mi sia piaciuto niente, non l'ho proprio neanche guardato. E si chiama Smith, forse? Smite. Ma sì, vabbè, te l'ho detto molto maccaronico. Sì. Smite, sì, trovato. Yes. È un gioco che mi pare abbia, da quel che ho letto, utilizzi un'ambientazione mitologica, personaggi presi Sì, dal. se apri subito c'è un dragone tipo drago cinese acquatico e Thor, è un vichingo. Il titolo Smite è rubato a World of Warcraft, sembra fatto con le cose World Dicono che è interessante perché è un'ambientazione diversa, mi of Warcraft. pare E che non è sia gameplay isometrico. diverso. Non è isometrico. No, è in terza persona tipo Neverwinter Nights. Vediamo. E qui vedo però un pre-order e register for beta. Il pre-order quindi Pensare che sia mi fa temere che pagato. questo costerà. Oddio, Beh, ma cioè, non penso che costerà in uno. tantissimo. Ci vogliono Che bene. è quello? Questa cosa? Vabbè, qui c'è un ciccione azzecco. C'è anche una delle recensioni che ti fanno vedere durante il trailer. Parlava di sesso, però non sono riuscito a leggere cosa diceva sul sesso. Andiamo un po' al pre-order. Chissà queste nuove Ma mi aggiunte. chiede di Ecco, qui vedo registrare. uno che, un ragno che picchia i creep, ad esempio. Comunque direi di passare al prossimo gioco. Sì, Ormai giusto penso che volevo di aver aggiungere. annoiato la Se tu mi hai gente. detto che c'era questo Smith, visto che stiamo parlando di tutti i MOBA, parliamo anche di questo. E aggiungiamo quindi che Smite, a quanto pare, è a pagamento. Ancora non si sa. Non siamo nei dettagli, bisognerebbe registrarsi, guarda, se volete lo faccio anche adesso, poi vi No. dirò a fine puntata. E i creatori di Smite hanno fatto anche un gioco che si chiama Tribes Ascend e sto cercando di capire che genere è. Ah, è un FPS, un first person shooting. È Halo Tarocco. Guardate, sembra di vedere le mappe multiplayer di Halo 3. Com'è che si chiama? Tribes Ascend. E anche i due personaggi che vi fa vedere vicino al trailer sono vestiti come Master Chief. Ah, è vero. No, ma proprio anche. Sembra veramente Halo. Vabbè. E questo è gratis. Se volete Halo gratis sul computer, multiplayer c'è Tribes Ascend. Che qui Eurogamer gli ha dato 10 su 10, ci dicono. Però. E il sito è Aires Studios. Ok, chiudiamo qui. Quei mob abbiamo finito. Abbiamo. Guarda, Riccardo è stato così bravo da recensire un intero genere. Va bene, ne... ho provato a andare sul pre-order. È abbastanza incasinato, ecco. Allora. Ah, registrarsi a tra Might. Ah, presente con 24 euro. Ti danno accesso alla beta. Accesso al trailer. Sì, accesso al trailer. E tutti i 30 eroi. Mi pare, sono tutti. 30, buu. Sì, sono ancora, non sono tanti. Sì, gli altri 3 sono più di 70, ne hanno. Vabbè. Esatto. Però qui si parla di mitologia, allora ti tocca essere più coerente. Qui infatti parla di dei, tu puoi comprendere tanti di dei, nel senso. Io l'ho chiamati eroi come si dovrebbe. Quel bambino peso alto 5 metri vestito da azteco era una divinità. Esatto. Va bene. Ok. Smite, se Riccardo lo vorrà provare ne parleremo in futuro, ma non lo so Riccardo, sa che non sarà all'altezza degli altri. Ma non lo so, anche perché mi pare che quest'ultimo non sia creato da parte del team che ha creato Dota Classico. Perché... Sì, sì, perché gli altri 3 sono stati creati da quelli che si dei sono... vari creatori. Dai creatori di Dota che sono separati, ognuno è andato per la sua strada. Esatto. Ok, vai. Vuoi andare tu, Marco? Ah, ok. No, va bene. Tu. Ah, tu. Tu chi? Cosa? Mi guardi, te, sono Marco. Io sono Marco. Vuoi la presidenza te? No, è che mi guardavi a me, cosa sento? Sei di fianco a me che devo guardare lo schermo. Sì, è lì. Vabbè, dai cazzo se mai. Vado io? Quello è Riccardo. Vai, vai, vai. Allora, io vi parlo di Darkness Within, da che non è un... Da come ho fatto io con Gabriel Knight. Da non confondere con Beast. The Beast Within. The Beast, è migliore bestia. Vabbè, Within non si usa mai in tutti i videogiochi, mi sono confuso. E è un gioco da, ovviamente di avventura, in prima persona, del 2009, vedo qua, di uno sviluppatore che non avevo mai sentito e che addirittura il sito internet è anche chiuso. Quindi il gioco è andato benissimo. Si chiama Zotrop Interactive. Andaci guardo. Io sono sulla pagina di Adventures Planet, ho cliccato su sviluppatore e non è uscito niente. Sono su Mobi Games, Zoetrop Interactive, eccolo qua. Nel 2007 però il gioco è stato fatto, da noi sarà arrivato nel 2009. Ah. E la recensione del 2009. Questi come famosi Zoetrop hanno fatto solo quel gioco. Ah. No, io so che c'è un seguito di Darkness Within, che è Darkness Within 2, però penso che non sia fatto da loro, probabilmente. No, a quanto pare no. Ci guardo. No, qua dice Zotrop Interactive. Allora su Mobi non gliel'hanno messo, si vede a loro. Cioè, non hanno aggiunto la scheda. Sì, non c'è neanche Darkness Within 2 su Mobi Games, quindi non c'è proprio la scheda. Ah. Allora, dicevo che è un gioco, un'avventura in prima persona. È un thriller psicologico. E... La cosa curiosa è che è totalmente in 3D. Cioè, diciamo che sembra, giocandoci, io l'ho giocato tutto, sembra un 2,5D, però in realtà è tutto 3D. Quindi c'è, ovviamente, anche come il gioco di ieri, c'è possibilità di settare qualsiasi risoluzione. Il gioco, cosa bella, è doppiato e sottotitolato in italiano. Oh. Un doppiaggio, devo dire, niente male. Sai chi l'ha distribuito da noi in Italia? Distributore Adventure Production. Ah, allora ok, l'Adventure Production è Adventure Splat, sì. E, allora, praticamente parla di questo detective che si chiama Howard, che deve investigare sulla morte di questo Clark Field, si chiama, che è un tizio con una passione per l'occulto. E tra i sospettati c'è un certo Loat Nolder, che è un altro investigatore privato, sì. E quindi il nostro obiettivo è quello di trovare questo Lotnolder che è praticamente scomparso. La cosa particolare di questo gioco è che è strutturato in giornate. Quindi noi in realtà non giochiamo i capitoli, noi giochiamo i giorni, giorno 1, 2, 3, 4. E la cosa bella è che praticamente dà questa sensazione di vivere l'avventura pian piano mentre vai avanti. E, tant'è che questo nostro personaggio, senza fare troppi spoiler, diventerà leggermente pazzo. Sì. Quindi dormirà anche per 5 giorni interi, per cui cioè, ti fa vedere anche che salti le giornate praticamente. È fatto molto bene. Poi il fatto di essere in prima persona fa capire che cioè, fa sembrare proprio di essere dentro all'avventura, tant'è che molte apparizioni, molte situazioni, a me molto spesso è venuto da chiedermi se erano reali oppure se stava sognando il tizio, cioè è fatto un po' strano questa cosa qua. Poi che dire, il comparto audio è nella norma, diciamo. La cosa bella è che ci sono molti effetti sonori, cioè diciamo la musica di sottofondo è normale, una musica normale, però ci sono molti effetti sonori, i meccanismi degli orologi, le porte che cigolano, solite cose. Infatti è una delle poche volte su Moby Games che vedo nei crediti gli effetti sonori, ci sono. Ah, ecco. Sono due fratelli perché hanno lo stesso cognome. Poi le ambientazioni sono veramente molto molto dettagliate, tant'è che quasi qualsiasi cosa che c'è nella scena può essere manipolata, cioè si può toccare qualsiasi cosa. Ecco, forse l'interfaccia, io mi sono trovato un po' scomodo con l'interfaccia, perché per accedere al menu si preme il tasto destro del mouse, fin qui niente di strano, però quando si inizia ad utilizzare l'inventario per mettere assieme gli oggetti... Ci sto guardando adesso, sì. Lì diventa un po' complicato, perché prima bisogna trascinarli in delle caselle che mi pare sono alla destra, se adesso stai guardando un inventario. Qua c'è la sopra. Sì, c'è l'inventario sopra, poi sì. Gli oggetti vanno trascinati in delle caselle, poi c'è un pulsante con scritto combina, quindi è un po' strano, cioè a me viene sempre da cliccare e trascinare sull'oggetto. Ah, sì, dire. Sì, l'ho visto adesso quella che dici. È un po' macchinosa questa cosa qua. Dentro al gioco ci sono veramente molti, molti documenti, molti testi, diari, lettere da leggere, poesie... meno male che è stato tradotto in italiano, perché altrimenti sì. È una cosa difficile. I testi devono anche essere analizzati, e quindi c'è anche la sezione in cui bisogna sottolineare le frasi più importanti di un testo per riuscire a capire il senso della cosa. Sì, quindi da indizi uno su due, ad esempio, sono immagini di una lettera. Esatto, bisogna sottolineare la frase per capire, per trovare l'indizio. Poi che altro dire, gli enigmi sono solitamente, si basano più sulla logica, diciamo, cioè si trovano gli indizi dentro al testo e magari si riesce già a capire che cosa bisogna fare. Di marchi ingegni, di enigmi che richiedono l'inventario ce ne sono pochi. In generale la difficoltà non è altissima, ecco. Però comunque non è semplicissimo come gioco. L'unica cosa che veramente secondo me o è un errore di traduzione o è un errore proprio di programmazione, che c'è un enigma che, lo posso dire tanto non c'è spoiler, riguarda un'agenda elettronica. La vedo, c'è anche quello screenshot. Esatto, che è bloccata con una password in cui bisogna inserire delle date. per sbloccarla. E lì ci sono, io ho avuto molti problemi, tant'è che ho dovuto guardare una soluzione perché non riuscivo a trovare la password. Probabilmente c'è, infatti leggo anche qua nella questa recensione qua che anche loro hanno avuto questo problema. Praticamente gli indizi nei documenti sono o sono stati tradotti male, quindi non si riesce a capire bene quale data bisogna inserire, oppure avranno sbagliato gli sviluppatori. Però io penso più nella traduzione. Ah, è probabile, probabile. Poi se la recensione che stai leggendo è italiana, è molto più probabile. No, è italiana. Allora sì. Quindi infatti io stavo per dire, ho letto subito la riga, sfortunatamente ci sono state dei problemi. Questa è l'unica cosa, per il resto molto... molto bello come gioco. Ci sono alcuni personaggi, ci sono, nel senso non siamo solo noi in prima persona, ci sono anche dei modelli 3D di altre persone. Però sono di una definizione che dire ridicolo è poco. Vedo dalle cutscene che hanno delle texture abbastanza retro. Esatto, però giustamente il fatto che non si vedono mai in faccia, non si vedono mai completamente, sempre nell'ombra, quindi uh-huh. Può anche passare questa cosa qua. E ci saranno due persone in tutto il gioco e neanche parlano, quindi cioè neanche si può interagire, quindi niente di particolare. Una cosa, il gioco è thriller horror, per dire? Sì, diciamo sì che è più psicologico, però c'è dell'horror in mezzo, sì. Perché il PG rating, vabbè, è 7, dai 7 anni in su. Ah sì? È bassino, eh. Sì, diciamo che non c'è... Sì, forse perché il PEGI si... Non lo so pronunciare io, scusa. Io non so se è Peggy o Pegibo. Sì, la E di solito pronuncia I, vabbè. PG. PG, boh. PG. Beh, il rating... Sì. Solitamente si basano più sulle cose visive. Cioè, sul contenuto... Sì. Sulle cose esplicite, diciamo. Esatto, esplicite. Invece qui non c'è praticamente nulla di esplicito, ecco. Cioè, a meno che uno si prende paura a leggere un documento, però... Quello, sì, diciamo che ci sono i momenti di tensione nel gioco, ma sono... Cioè, alla fine stai giocando a un'avventura grafica, non è niente di particolare. Quindi forse anche per quello che il rating è abbastanza basso. Poi cosa stavo dicendo, non mi ricordo più. Ti ho interrotto quando mi ricordo proprio più cosa stavo dicendo. Ti ho quasi detto che i personaggi c'erano, però sono nell'ombra. Il fatto che abbiano le texture poco definite, sì. si nota poco, ecco. C'è anche da dire che è stato fatto quasi a quattro mani il gioco. Se vai a vedere i crediti, hanno fatto tutti i fratelli. Io li do per fratelli: Onur Samli e Oral Samli. Sì, saranno fratelli per forza. O padre e figlio, così. Una marca di sapore. Vabbè. Ma marito e marito. Vabbè. Oral potrebbe anche essere un nome da donna, per quello che ne so io. Sì. Sì, quindi diciamo che... Sì, cioè, non ci si può neanche aspettare più di tanto, ecco. Anzi, però... scusa. È già tanto, sì, no? A di sei mani, perché a parte loro c'è solo un'altra persona, quindi che ha programmato, quindi sono in tre. Sono in sei. Sei mani, sono in tre. Ecco, questo ho detto all'inizio che è totalmente in 3D. Però, diciamo che l'ho detto all'inizio, è un 3D che sembra un 2,5D, perché in realtà gli sfondi sono pre-renderizzati. E quindi in realtà non sono in 3D gli ambienti, però noi siamo in mezzo e ci muoviamo a 360 gradi, quindi programmandolo sicuramente noi siamo in mezzo ad uno spazio 3D, quindi in teoria il gioco è in 3D, ecco. Sì. Mentre il Darkness Within 2, il seguito, è invece totalmente in 3D, è come un FPS si gioca. Solo che da quello che ho, non l'ho ancora provato, ma da quello che ho letto ci sono molti problemi di performance del gioco. Questo qui è il problema quando ha un piccolo team, cioè riesce a fare grandi cose, ma purtroppo con le pecche. Poi magari sono, chissà, magari se lo provo magari io non ne ho di sti problemi, però vedo che un bel po' di gente si lamenta del fatto che è un po' scattoso come gioco. Sto andando a vedere le immagini del 2, c'è poca roba da vedere qua. Sì, anche perché non ha fatto neanche tanto successo il seguito. Ed è uscito anche da poco, però l'anno scorso. Sì, sì. Sono delle gran artwork, però sì, esatto, vedo a mo' di FPS la mano del protagonista che gira con la lanterna. Esatto. Esatto. Non ho avuto modo di provarlo, quindi non posso dire se... Però da quello che leggo su qualche scattosità, qualche lag, non penso che sia stato fatto benissimissimo. Ed è stato distribuito anche il 2 da Adventure Productions, per chi interessasse. Ah, ecco, poi un'altra aggiunta all'interfaccia, come ho detto prima, che bisogna combinare gli oggetti dentro l'inventario. C'è anche un meccanismo che va per deduzioni. Per cui noi, sempre nella stessa interfaccia che avevi visto prima tu, sì. Noi sulla sinistra abbiamo una serie di argomenti che noi abbiamo letto oppure abbiamo ipotizzato, e anche quelli possono essere combinati per creare delle deduzioni, e quindi tipo ad esempio c'è un enigma dove bisogna trovare, è sempre quello là dell'agenda elettronica, che bisogna trovare la data di nascita di una strega. E quindi bisogna leggere vari documenti e poi mettere insieme tutte le informazioni, quindi non è solo l'inventario che può essere combinato, ma anche le informazioni che noi troviamo. Per questo c'è, diciamo che c'è abbastanza libertà nel cercare queste cose, e sicuramente ci si mette anche un po' di tempo a trovarle tutte. La longevità non so quante ore siano, però... Ma l'hai finito o è in corso adesso? No, l'ho finito. L'ho finito, non so quanto ci ho messo. Forse lasciandolo, a volte riprendendolo perché non riuscivo ad andare avanti, forse tre settimane ce le ho messe tutte. Più che altro perché c'è molto da leggere dentro, e quindi ci si perde un po' di tempo in queste cose. Basta, dai, sembra... No, diciamo che bisogna mettersi nella vena giusta di provarlo, perché non è per tutti come gioco, ecco, bisogna avere molta pazienza. E qua vedo che sia l'1 che il 2 costano 30 euro. Dove? Sul sito della Adventure Production, ovviamente se usati si trovano a meno. No, perché io prima sono andato su Amazon e mi pare di aver visto il primo a 9 euro. Sì, sì, sì, per il distributore. Quindi sì, sì. E probabilmente a GameStop si trovano, l'1 almeno si troverà anche a meno. Sì, l'1 9,95 euro. Sì, immagino. E... Invece il costa di più, 30 euro, giusto? Qui lo dà a 30. Però anche il 2 è comunque doppiato in italiano. Ah, è bene, dai. Perché poi... penso che anche il 2 ci sia molto da leggere. Poi ti dà come, diciamo, punti di forza, 3 difficoltà, mentre l'1 difficoltà ne aveva una sola? No, esatto, bravo, bravo che l'hai detto. Anche nell'1 ci sono 3 difficoltà. C'è quella standard, dove appunto... è standard, cioè praticamente gli indizi nel testo vengono trovati quasi automaticamente. Ah, ok, quindi tu guardi. Sì. Però hai la scelta, nel senso se non vuoi leggerti il testo o trovare gli indizi, basta che premi pulsante e lui te li sottolinea, altrimenti lo puoi fare automaticamente, mentre nei livelli di difficoltà più alti invece devi farlo tu, proprio sottolineare, obbligatorio. e inoltre nei livelli più alti non ti danno assolutamente nessun aiuto, mentre a livello standard ogni tanto, se rimani fermo per un po', il gioco ti dice: hai provato a guardare, non so, l'armadio, per dire. Voce misteriosa. La voce del professor Rock. Sì, però non sono non sono così tanto espliciti, ecco. Diciamo che ne esce uno ogni 2 ore di gioco, se proprio sei fermo che non sai che cosa fare. Quindi anche i livelli di difficoltà alla fine se ne poteva anche fare a meno, secondo me. Fuori dalla finestra sta passando una processione religiosa, spero che non sentiate i tamburi. No, io sento dei tamburi in sottofondo molto lontani, proprio lontani lontani. Sì, sono 50 metri di distanza, però sono qui. Proprio adesso dobbiamo passare, vabbè. Vabbè. Poi un'altra cosa bella è che non c'è pixel hunting, fortunatamente. A me piace il pixel hunting. a me non piace, non mi no, piace. No, scherzo, non è che mi piace, però in un'avventura un oggetto pixel hunting che non sia poi tanto impossibile da vedere ci sta. Sì, ci sta, però ci sono certi giochi dove proprio... Cioè, è una cosa incredibile cercare di cliccare su qualcosa. È costante, soprattutto, più di una volta. Vabbè, o in Course of Life. Come fai? O in Future Wars. Anche. Quindi qui è raro. Oltre al fatto che quando passiamo col mouse su un oggetto che possiamo cliccare, viene scritto il nome anche sotto, quindi il cursore cambia... Cambia forma. Una cosa che manca... che non so, per alcuni può essere utile, è il fatto che premendo un tasto ti faccia vedere tutti gli hotspot del luogo. Alcuni giochi ce l'hanno, tipo Secret Files, sì. e anche Grey Matter, quello di ieri, ce l'ha. Il sistema anche di facilitare le cose. Esatto, ti fa vedere tutti gli hotspot cliccabili. Però in un gioco come questo penso che sarebbe stato, cioè, proprio fare giocare il computer e tu non fai niente, ecco. Sì, che se pensiamo ad esempio a Discworld 2, dove a certe locazioni non si vedevano nemmeno che c'erano, una cosa così avrebbe preso il gioco 5 volte più facile. Eh certo. No, ma poi cioè, dipende anche dal tipo di gioco, questo è più un gioco che si basa sull'esplorazione, quindi... È chiaro che non puoi mettere una funzione del genere. Anche i Sherlock Holmes della Frogwares hanno questa opzione. Sì? Sì, sì. Ah, quelli in 3D o finto 3D ce l'hanno quasi tutti, praticamente. Solo quelli cartoon non gliela aggiungono, perché è il bello di quei giochi è cliccare su tutto e vedere le cazzate che dici. Sì. In un gioco 3D, che è serio, solitamente clicchi sul secchio, il personaggio ti risponde: è un secchio. Un secchio, sì. In una cartoon ti direbbe: wow, se avessi della melma riempirei il secchio di melma, cioè una cosa sì, che... Sì, sì, sì. Capitan ovvio, diciamo. Sì. In questi giochi qua. E basta, comunque anche la trama, vabbè, l'ho accennata all'inizio, è molto ben fatta, e la cosa bella è che appunto col fatto che il gioco va avanti a giornate, noi ricostruiamo la trama pian piano che giochiamo. Mm-hmm. Quindi tra i documenti e le cose che troviamo riusciamo a ricomporre, diciamo, la trama. Il percorso di questo, com'è che si chiama il tizio? Com'è che era? Howard. Sì, Howard. Di Ron Howard. Dov'è? Prima di diventare resist. Dov'è Darkness Waiting qua? Maledizione, c'è il 2, l'1 non si trova. Vabbè, che sempre Howard si chiama anche nel 2. Ricostruire le tracce del tizio che è nel sottotitolo del gioco. Esatto. In questo momento. Esatto. Eccolo, Loat Nolder. Loat Nolder è quello che è sparito. Dobbiamo trovare lui. Dobbiamo trovare lui, sì, sì. Ok. Comunque Adventure Production ha fatto uscire di giochi, guarda qua. Eh sì. No, ma io poi sempre cose abbastanza... cioè, abbastanza buone, buoni giochi. roba che se non c'erano loro non sarebbe mai arrivata in Italia. Esatto, tipo A New Beginning, che non... ho iniziato a giocare ma non ho ancora Io finito. lo devo comprare. È nella È lista. il primo della lista da un anno e mezzo. Il primo della lista. E poi Sì, cos'altro hanno fatto? sicuramente tra tutti quelli che hanno è quello che mi interessa di più. Ah, vabbè, hanno anche Gabriel Knight 2, però ci ho giocato talmente tante volte Ah, sì. Un che non vale nemmeno la... altro che mi stuzzica è coso. The Abbey, però non so, la gente non ne parla benissimo. Vabbè, la gente non parla Ah, bene di The niente. Abbey. Sì, beh, The Abbey. L'avevo già sentito, quello È lì. quello a cartoon liberamente ispirato al nome della rosa. Ah, sì. Sì, è vero, non ho sentito buone recensioni, però. Vabbè, anche qui se vai sul sito di. Se vai su TheAbbey.it, Sì. nella pagina iniziale dove c'è scritto "Coglie in pieno lo spirito narrativo". Ci sei? No. C'è Ci proprio. sono. Dove c'è scritto sotto c'è "Prosegui per il sito ufficiale". Sì. Cliccandoci sopra si arriva su un fantastico sito in una lingua che io non conosco. Jagowski dovrebbe, credo che le ho barrate a mo' di divieto, Divieto di divieto di. stradale siano russe, boh. Ah, ecco. Quindi penso che anche il dominio di The Abbey mi sa che l'hanno venduto. Sì, il dominio l'avevano comprato in Russia, probabilmente. Ma invece a volte succedono cose sorprendenti, tipo il gioco, un'avventura grafica del 99, mi sembra, che è coso, ecco. Non mi viene il nome, quella dove sei quel detective, l'avventura molto pulp. Non mi viene in mente il nome, cavolo. L'ho messo io su Arena 80. No, non è bianco e No, nero. È un detective pulp che c'è in avventura, c'è tutto quello che la può far censurare. Vabbè. quindi Comunque, palpa nel vero senso della il gioco è parola. uscito solo nel 97, nello stato 99, nello stato in cui era. E però lo potevi ordinare dal sito dei creatori. Il sito esiste ancora, dal 97 a oggi hanno pagato il dominio. Ah, però vuol dire che ci credono probabilmente. Mentre giochi tipo questo, che quando escono per un anno il sito rimane, poi lo buttano Eh giù sì, e perché poi lo tanto a cosa buttano giù, serve. sì. Dopo lo comprano i russi ed è finita. Ecco, e inizia la rivoluzione. Cavolo, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, Io più sono su avanti. Arena 80 adesso, stavo guardando, ma non Più riesco a avanti mi tornerà trovare. in mente. Non riesco a trovare. Vabbè, dopo lo cercherò anch'io, dai. Una cosa, mi sbagliavo. Su dell'Advento Production ci sono altri due che mi fanno gola. Forse tu ne sai qualcosa. Uno, vabbè, è Vampire Story, che ne ho sentito parlare male, però lo vorrei provare. Ah, io anch'io l'ho sentito, però non mi attira più di tanto, non so perché. E l'altro è Ghost Pirate of Uzu Island, che mi attira più di Vampire Story. Ah, anche Ghost Pirates. Anche quello mi sa che me lo devo prendere. Prima o poi, con un 3x2, dai. Eh sì. Eh sì, alla prima occasione, tanto i giochi d'avventura si svalutano proprio immediatamente. Ah, guardando gli screenshot di Ghost Pirate, vedi il cielo con le nuvole a spirale come i Monkey Island 3, ti viene da fare. È per Le quello nuvole a che. spirale. Beh, lo stile è simile. Ma cioè, ci dovrebbe essere qualcuno, mi sa il disegnatore del 3 proprio, dovrebbe essere nel team. Ah sì, caratteristiche principali: un'avventura punta e clicca ricca di humor scritta da Bill Tiller, Monkey Ah, Island scritto. 3 e A Vampire Story. Vabbè, È lo scrittore. magari, boh, non lo so. Però non vuol dire niente, ad esempio So Blonde è scritta da uno dei sceneggiatori di Broken Sword, ma So Blonde fa schifo. Ah, non ci ho mai giocato a quello. Diciamo che è per bambini, è costellata da Ah. minigiochi e gli enigmi non è che siano sta. Ah. Sì, come quelle cose che io odio e quando vedo magari su internet, magari cerco avven nuove avventure grafiche, scrivo avventure, oppure Adventure Games e mi escono quei giochini là dove devi trovare gli oggetti. I casual game, gli hidden objects, sì. Quelli che li quei chiamano fantastici Adventure Games. generi, che sono gli Escape the Room e gli Hidden Object, Dio mio. Che li chiamano Adventure Games. E al GameStop ci sono adesso, perché la Big Fish Game distribuisce anche in Italia adesso. Ah. E questi fantastici giochi te li puoi portare a casa al prezzo di 10 euro l'uno. Ah, buono. Stanno al GameStop. Proprio... Stai facendo una pubblicità del GameStop da circa 3 puntate, circa. Non sei neanche tanto occulta. Scusate. Cos'è? Era Donkey Kong. Non approvava la pubblicità. Questa non è pubblicità del GameStop, perché ho detto che i giochi da Big Fish Game possono anche rimanere lì negli scaffali e morire lì. Sì, ma solo il fatto di nominarlo è pubblicità. Vabbè, diciamolo, magari alla gente gli piacciono, gli dico che esistono anche non digital delivery, visto che una che ama le avventure grafiche di solito... No, il discorso della pubblicità è che comunque non esiste solo GameStop. Allora parliamo male del GameStop. Scusa, a Forlì c'è solo quello, Riccardo, quanto ti devo dire? Vabbè, si spera che ascolti qualcuno anche fuori da Forlì. Ma io non lo so che negozi ci sono nella città. Beh, ma anche qui c'è solo GameStop. Anzi, a Forlì ne abbiamo 3 adesso, addirittura. Sì, esatto, 3 GameStop, uno peggio dell'altro. No, peggio no. Sì, peggio. Sono uno uguale all'altro. Cioè. Avere a che fare con i commessi di GameStop è una cosa molto, molto brutta. Comunque ricordiamo, per essere commesso a GameStop ci sono 3 posti. Allora, serve quello... Che... Il babbione. No, il babbione è dopo. Ah. Il principale della piramide dei 3 commessi che sono a GameStop è quello che si becca le responsabilità, ovvero che si becca le telefonate di reclamo, ha sempre le palle girate, se gli chiedi quando c'è un gioco ti risponde male. Secondo posto, quello che cambia ogni settimana, di solito è un fighetto o una fighetta che è lì per sbaglio. O una scimmia a 3 teste. E infine l'ultimo della catena alimentare GameStop è il babbione, ovvero... Catena alimentare. Quello che l'ha infilato qualcuno lì dentro, lui gioca i videogiochi ma non sa che sono videogiochi. Lui pensa sia VIP. E io dei babbioni ne ho visti 2 o 3 e veramente sto da morire da ridere. Una volta... che se vai a chiedere, che so, se hanno il Diablo 3, si mette a ridere con me. Diablo. Che cazzo ridi? Allora, adesso parliamo un po' dei babbioni che sono stati nati. Prima ma proprio perché secondo lui è scontato che non ce l'hanno perché è finito. Una volta? Ma scusa, ma... No, quello non è un babbione, quello è uno che ha capito cosa hai detto, il babbione non capisce cosa dici. No, quello è uno che non sa come fare soldi. Una volta, davanti al GameStop, era Natale, no? Allora c'era la PlayStation 3 in prova perché cercavano di svenderla a chi ancora non sapeva che esisteva. E c'era sto bambino che avrà avuto 3 anni, si reggeva malapena in piedi, cioè. E si era messo a tucciare il joystick della PlayStation 3. Esce il babbione che era... Io sono alto 1,90 m, su lui era alto 2,30 m, cioè era abnorme. E si mette a parlare con sto bambino che a malapena si reggeva in piedi e fa: bambino, tu non devi giocare a quella, non puoi fare così. Sai quanto costa la PlayStation 3? Costa troppo per te. E il bambino dal basso verso l'altro guardava, non capiva neanche le parole... E sbavava. Vabbè, i bambini sono particolari. Invece io incontrai un babbione da quando... No, era il fighetto. Te beccato il fighetto. Sì, vabbè, era il fighetto. Però gli portai Chronicles of Mystery, che è un'avventura grafica seria. E lui mi fa: ah, quello è uno di quei giochi che bisogna usare il cervello. Un'avventura grafica. Sì. La scoperta dell'acqua calda per quest'uomo. Il cervello. No, dell'esistenza delle avventure, no, dei giochi dove devi usare il cervello, no, perché se giochi a PES, vabbè. Non ci ho giocato a Chronicles of Mystery, com'è? È il 2, che me l'ha regalato lui per Natale, ho quello l'albero della vita, non ho la maledizione dello scorpione, è un Secret Files wannabe praticamente. Però è in prima persona. Ah, vabbè. È carino, sì. Sai cos'è? È molto legnoso il 2.5. E le cose 3D appoggiate sugli sfondi si notano che è una meraviglia. Ah. Però il gioco è carino. Vabbè. Beh, magari ci faccio un pensiero. Sta lista di giochi da comprare si sta aumentando un po' troppo. I cronici sono visti che giocherò a Grifandango. Credo debba uscire in 3. Qualcuno ha fatto citazioni di Grifandango oggi? Pare di no. È no. distribuito dalla... Sì, ecco, non so. Ecco. Chronicle of Mystery è distribuito dalla City Interactive e dovrebbe costare dai 20 ai 30 euro, dipende se è nuovo o usato. E stranamente al PG 16. Come mai? Cioè, qualcuno viene ucciso durante il gioco, ma cioè, non lo vede. Perché devi avere il cervello di un sedicenne. Ah, ecco. Quindi i bambini non ce la fanno. Il PG 16 in questo caso è consigliato. È l'intelligenza minima. Intelligenza. Ok. Vabbè, che roba strana. Passiamo. Vabbè. Se non avete altri. Bananardi. Sì, esatto. Se non avete altre aneddoti su GameStop e la sua fauna. Sì. No, ecco, questa io ce l'ho. Ho preso da Amazon. Spedizione gratuita. Una volta... no, anche... io avrei 3.000, vabbè. No, una volta c'era... Presente che a GameStop c'è il televisore gigante che fa vedere i trailer? Sì. C'era quello delle Tartarughe Ninja, no? Del gioco. E c'erano tipo 4-5 bambini, avrò avuto 10 anni, 9 anni, che facevano che bello, che figata. E i due commessi del GameStop li guardavano da lontano e fanno: ma, bambini, meglio Assassin's Creed. No, non dico che tanto Genji è meglio Assassin's Creed, però cos'è sta cosa? Però sono meglio di Assassin's Creed. No, vabbè, che ne so io. Però, cioè, no, è che ti senti così, dai, migliore dei bambini per chi piace tanto Genji. Perché... Lui ha avuto 30 anni, vabbè. Vabbè. A me non mi è mai capitato nessuno di particolare, a dir la verità. No, beh, sì. Solo a Forlì siamo messi così. No, beh, sì, uno a me mi è capitato. Quando sono andato a... Non so in che categoria di commesso metterlo. Quando sono andato a vendere un gioco, mi pare. Non mi ricordo che cosa. Ne ho preso un altro per PC, l'ho preso, sono andato alla cassa, il tizio mi guarda, apre la confezione del gioco, chiaramente il disco non c'è, deve prenderlo, prende il disco, lo mette dentro, poi lo richiude, guarda bene la copertina, me lo dà e dice: ma è per PC? E io gli ho detto: eh beh sì che è per PC, ma sei sicuro? Perché hai paura che mi esplode? No, perché deve fare il discorso che quelli per PC non li puoi restituire, probabilmente. Sì, vabbè. Quelli però... per console c'è il discorso, se non ti piace lo puoi restituire, ma devi avere... Ah, lo puoi anche restituire? Però. Quelli per PC se non ti piacciono te li tieni. Li tieni. Ah, beh, perché li puoi masterizzare, registrare la CDK e... No, beh, probabilmente perché il GameStop fa i soldi con le console, col PC, è solo per bellezza lì. No, infatti... no, è perché se tipo mi vendi un gioco, qualunque gioco, io posso registrare le CDK sui vari siti, soprattutto i giochi nuovi. Sì, hai ragione anche te. E quindi... Cioè, tu prendi il gioco, ti copi la CDK e poi lo riporti al negozio. Sì, beh, ma no, chiaro. Ma semplicemente vado tipo sul sito della Ubisoft, di Steam, sì, ho capito così, la registro e il gioco è mio, dopo diventa per forza mio. E quindi anche se restituisco il tizio che ricompra il gioco, si troverà una CDK inutilizzabile perché è già stata registrata. Ok. Il ragionamento fila, io non ci sarei mai arrivato, però ora mi prometti che non lo dirai mai ai commessi della GameStop. Dici che vanno in brainstorm? Vanno in brainstorm oppure diventano più intelligenti, prendono 5 punti di intelligenza. I babioni meno 5. Loro smettono di camminare dopo che le disimparano. Ok, chiudiamo la parentesi GameStop, ci torniamo la prossima volta con nuovi aneddoti, che ne abbiamo tanti. Anche sui giochi usati e comprati, vabbè, ma torneremo più avanti. Torniamo più avanti. Ok, è ora di se non hai altro da aggiungere su The Darkness Within, gli diamo il voto in banane. Allora, il voto in banane io gli darei 3 banane. So cosa state aspettando. Sì. Esattamente. Vabbè. 3 banane solo perché c'è quell'enigma dell'agenda elettronica che veramente tradotto in italiano dovevamo farlo meglio perché è impossibile. Altrimenti erano 4. Lì è colpa della localizzazione, dai. Sì. Però io ho parlato della versione italiana, quindi sono 3. Sì. Cioè, l'importante è che hai spiegato il perché è così, e direi che tutti sarebbero d'accordo, perché quando fai quei giochi, in questo tipo di giochi, certe cose sono frustranti a dir poco. Eh sì. Come io con Whispered Ed World, arrivato a un certo punto, avevo paura di aver perso oggetti dall'inventario e quindi andavo a vedere la soluzione se li avevo tutti. Perché c'era sto bug che ogni tanto gli oggetti all'inventario scomparivano. Non penso a te. Vabbè, però è come dice, come detto prima Calavera sul forum, che noi giochiamo alla beta del gioco. Se poi giocare a Whispered World senza patch è come andare a prostitute senza nessuna protezione, cioè è la stessa cosa. Non lo fate perché odiereste il gioco giocando Whispered World senza patch. Anche le battute. Solo alla prima mappa scompaiono le texture, a un certo punto le cose scompaiono e vedi le barre rosse e nere. E hanno avuto il coraggio di lasciarlo, di metterlo in vendita così. Sì. Ma è come me ai primi tempi quando ero un game maker. Dice, ma cosa serve il beta testing? E dopo mi trovo i 5 giorni seguenti a riuppare versioni modificate del gioco perché era ingiocabile. Va bene. Chiudiamo The Darkness Within con un 3. Che era un possibile 4. Esatto. E vai, io faccio per ultimo. Tocca a te, parla di... No, non è Rescue Shot della Play 1. Il gioco dove ti spara il culo al coniglio, no. Parliamo di... Torniamo, come al solito, a Super Nintendo. Perché io so parlare solo di quello. No, giochi solo a quello, non è vero. Non è vero, sono giocato vero. Per 2 anni. Giochi sempre al DS e alla PSP. Che non esistono, però sì. Parliamo oggi di Dracula X, che è un, diciamo, pure il quinto della saga di Castlevania. Ti metto la pagina così non fai gaffe di se non le date sbagliate. Io dico tutto quello che mi pare, se sbaglio chi se ne fa. Vabbè, te la metto. Vabbè. Il è fatto dalla Capcom. No, sì, però è giocato dalla Konami. No, sto scherzando. È la Konami, infatti. Sì, vabbè. Il Dracula X è il quinto della saga, che ovviamente segue dopo Super Castlevania 4 del Super Nintendo. La versione europea è chiamata Vampire Kiss, quindi è una versione molto più soft, dove alla fine al posto di Dracula incontrerete il frozzo di Twilight da uccidere. Quindi vi consiglio di giocarvi il Dracula X. Effettivamente la spiegazione di perché si chiama Vampire Kiss non ha senso. Perché alla fine c'è il frozzo di Twilight. Ah, io ho finito quello, purtroppo. Una premessa, lui non ha mai battuto il boss finale. Non è vero, sono arrivato alla seconda forma, ma perché mi tiro giù dai capitelli. Se non ci fossero i capitelli riuscirei a battere. Se non ci fossero i capitelli non sarebbe il pavimento, quindi... Vabbè, però non è giusto. Dracula una volta ti si combatteva lì nella stanza col corridoio idiota. Si è fatto furbo, scusa, lo ammazzavi sempre. Simon lo ammazzava sempre. Comunque andiamo al gioco, basta con le cazzate. Ok. Allora, qui abbiamo come protagonista Richard Belmont, il... Diciamo pure secondo della stirpe Belmont. Non è il secondo. Vabbè, prendiamo... Sì, è dopo Simon. Se tu prendi in considerazione tutti i giochi della saga, ti infilano della gente prima. Sì, no, sono dopo a Richard Lorum. È Julius che è l'ultimo, se non ricordo male. Comunque, per chi non conoscesse Castlevania, la trama è molto semplice. Ogni 100 anni Dracula torna in vita con il suo castello che compare dal nulla. Ah. E un guerriero, un cacciatore di vampiri della stirpe Belmont, come dice la leggenda, dovrà andare nel suo castello a ucciderlo e distruggere il castello. Scusa, ho scoperto che ha un senso il nome Vampire Kiss. Perché Richard va a uccidere Dracula perché gli ha fregato la moglie. Se l'ha abbassato. Il bacio del vampiro è il morso, cioè l'ha contagio. Sì. Ma io sono arrivato, la moglie non l'ho trovato. Tu non l'hai battuto. Vabbè, ma dove la trovi? È una stanza piena di buchi. È come Peach, quando tu batti Bosworth si apre la porta, c'è Peach. Viene dal cielo. Vabbè. Allora, qui abbiamo Richard Belmont, chiamiamolo pure il secondo della stirpe, che precederà un altro che non so chi è, ma diciamo che è Julius Carotti. Credo sia quello del 64. Ma io i nomi non li so tutti. Questo castore di vampiri è molto diverso dagli altri, soprattutto per l'abbigliamento, perché si veste tutto di blu e dà una fascia bianca alla Raiu, perché solo Raiu l'ha portata. Gli altri si vestono di marrone tutti. Gli altri sono tutti marroni con la frusta classica. Invece Richard è molto diverso anche perché non sa fare certe cose. In Super Castlevania, sì, la sua frusta c'ha la mazza. C'ha la Morningstar. Ma in realtà ce l'avrebbero tutte, perché sono fruste spinate. Prima c'è quella di lei. Quello è Super Castlevania 4. Qui sì, tu sarai già potenziato al massimo. Ecco, la differenza tra lui e Simon è che Simon riesce a fare colpire i nemici anche dall'alto e a roteare la frusta, mentre Richard non lo sa fare. Per il resto è uguale a qualunque altro cacciatore di vampiri, ha le solite non abilità, ha la classica barra della vita uguale a quella dei boss, che però ovviamente voi toglierete una barra di vita al boss, il boss ne toglierà 4 a colpo. E il suo scopo, come vi ho già detto, è attaccare il castello di Dracula. Lui quindi partirà dalla città in fiamme di fianco proprio al castello che è nato da lì. La particolarità di questo gioco è che, a differenza di Super Castlevania 4, questo torna ai tempi di Castlevania 3 per il fatto che ci sono dei bivi durante il gioco, che quindi vi possono portare a mondi differenti. I boss sono strutturati meglio di quelli dei vecchi, di alcuni vecchi Castlevania, sono molto più strategici e hanno delle battaglie molto più complicate. Come il quinto boss, che è il Lupo Mannaro, che è una cosa assurda, sa fare 10 attacchi diversi. Sembra il boss di Street Fighter più che... Sì, è come combattere in un picchiaduro, però lui toglie, cioè quando ti colpisce ti toglie tipo 5, tu gli togli uno alla volta, devi compirlo 20 volte. Solo che sto Lupo Mannaro ti si salta nei muri, fa cose strane. Come fanno tutti i lupi mannari. Sì, sì, i lupi mannari che conoscono la Dokken. Richard Beltmund compare solo in questo Castlevania e in un futuro Castlevania che è il Portrait of Ruin, uno che hanno fatto per DS, dove sarà solo semplicemente un boss alternativo. È un cameo, dai, diciamo. Sì, però... Comunque, cioè, lui non è stato ripreso, invece Simon lo buttano da ogni parte. La particolarità... Un'altra particolarità, aspetta, è che lui ha un'arma aggiuntiva dai soliti Beltmund. Avrà sì la croce, l'ampolla, l'ascia, quelle menate, il coltello, l'orologio. Però sto giro c'è anche la croce sacra, che vi permetterà di sprigionare il vostro potere contro i mostri. Inoltre, se ben 35 cuori, potete scatenare la potenza massima della vostra arma che portate con voi. Per esempio, se avete i coltelli e 35 cuori a disposizione, tirate una raffica di coltelli. Cosa volevi dire te? Che in realtà Dracula X esiste anche per PC Engine, ho letto qui. E, non, si chiama uguale, ma il gioco è diverso, però il protagonista è sempre Richard. Cioè, praticamente esistono due su Richard. Cioè, anche sì. Il Dracula X per PC Engine. Veramente, io ho giocato sia il Dracula X che il Vampire Kiss, perché tu me l'hai cancellato il Dracula X, dopo. No, ok. Quella, e me l'hai sostituito col Vampire Kiss. Quella è la versione giapponese. Sì. E no, americana. Però, per un'altra console esiste Dracula X sempre, e il gioco è diverso, però sei sempre Richard. Ma in realtà le differenze, volevo dirti, che sono poche, perché io comunque tutti e due sono arrivato fino alla fine. E mi ricordo che, per esempio, il Vampire Kiss, le musiche sono velocizzate. Le differenze sono scritte qui. E anche nella... la morte, quando la combatti, mi pare abbia lo sprezzo diverso. È scritto lì. Nella versione europea e americana, visto che noi siamo pieni di cristiani, al contrario dei giapponesi, la morte è stata ridisegnata, sì, esatto. Perché era, aveva, dai, per la simbologia cristiana. E tutte le croci del gioco, e tutti i simboli cristiani del gioco sono stati tolti. Tranne l'arma croce, quella c'è ancora. Ma infatti si è giocato al Vampire Kiss quando è arrivato a combattere il boss della morte. Non è una morte, è una specie di negromante, sì, sì, sì, che vi tira le lapidi. In realtà lui vi tira le falci. E sì, la... Ops. Scusate. L'hanno modificato per i cristiani, vabbè. Ma comunque tutta la saga di Castlevania, la morte c'è sempre. Infatti la morte c'è in tutti i Castlevania. Noi ci chiedevamo, ma perché in questo non c'è? Perché qui l'hanno fatto diventare un negromante, tipo. E dopo si trasforma nella morte. Vabbè. In realtà è solo una versione europea americana, perché poteva offendere qualche cristiano ben pensante. Allora giocatevi da uno sorbo, cioè, dove, se leggete la descrizione della morte, è scritto che lui era amico intimo di Dracula, così siete tutti felici. Amico intimo. Comunque, a parte tutte queste differenze che ho elencato, il Castlevania è come Super Castlevania 4, tutti i suoi predecessori. La solita struttura da platform che mi porta avanti nei capitoli, e qualche piccolo cambiamento durante i diversi mondi. Per esempio, nel terzo ci sarà il primo bivio, che sarà in un momento, in una specie di corridoio con dei buchi. Se voi cadete di sotto non morite, finite in un mondo alternativo, che per l'appunto sono i sotterranei del castello, dove incontrerete la morte. Se no, potrete proseguire dal castello e praticamente evitare un mondo in più. Quindi ci sono parecchie differenze. Inoltre, questo Castlevania introduce nuovi tipi di mostri, riproduce vecchi mostri, come i classici Emuli con Ascia, i Schere Scimmia, gli Uomini Pulse, dai, i classici. E ci porta dei boss particolari, come che poi vengono ripresi dai vecchi, come il pipistrello gigante, che è stato il primo boss di tutti i Castlevania. Guarda, ad esempio, questo Castlevania che ti sto facendo vedere c'è sempre... è quello che ti dicevo, che c'è sempre Richard, ma è completamente diverso. Sì, e poi riconosco anche quei mostri, perché comunque dopo questi mostri li utilizzano tutti nei nuovi Castlevania. La versione per PC e Zine ha i boss più belli, vi dirò. Sì. Lui c'è nel... quello lì è un mostro normale che c'è in coso, nel Order of Ecclesia. Vabbè. Sì, ecco. Comunque... quindi la trama è che riesce a salvare la sua ragazza che è stata presa da Dracula. Partendo dalla città infuocata. Rido perché un posto si chiama Shaft e mi è venuto in mente il telefilm. Chi è Shaft? La Chappelle. Vabbè. Va avanti. Partendo dalla città infuocata dove incrocerete il nostro caro amico Cerbero, arriverete fino all'entrata del castello. Sì, vabbè, non dire tutti i boss. È il primo boss, tu non sei riuscito neanche a batterlo. Dai, vabbè. Fin qui vi aspetteranno. A me i platform piacciono, non ho mai detto che sono bravo. Sì, vabbè, ma come fanno a battere Cerbero, un minchione. Vabbè. Comunque, a differenza del 4, questo purtroppo è più corto, ha 7 mondi, mentre Super Castlevania 4 era sulla decina. La versione per PC Engine è più lunga invece. No, è uguale identica. Tu non l'hai giocata quella per PC Engine? Io quale ho giocato allora? Alla versione giapponese. È la diversa. C'è la cosa cristiana e la morte, fine. Ah, ok. La versione per PC Engine è un gioco diverso, con lo stesso nome e con il protagonista Richard. Va bene, allora precisiamo che stiamo parlando di quella del Super Nintendo. Sì, quella del Super Nintendo. Esatto, non è quella del PC Engine. Che non ho mai provato, ma proverò. Ok. Vabbè. Cosa può... che altro c'è da dire? Niente. Diciamo che abbiamo già finito. Il punto è che io ho preferito Super Castlevania 4 a questo proprio per il fattore della longevità. E anche un po' per la difficoltà, perché comunque Super Castlevania 4 aveva i livelli più lunghi e complicati. Qui sono più forti i boss al confronto, perché in Super Castlevania 4 bastava trovare un punto morto per alcuni e batterli immediatamente. Sì. Qui invece abbiamo dei boss molto complicati, come diceva il Lupo Mannaro, o la morte, dove dovrete mettervi d'ingegno e riuscire a evitare diversi colpi in modi particolari e colpire allo stesso tempo l'avversario. La cosa è anche perché nel 4 i boss facevano 5 passi avanti e 5 passi indietro, buona. Qui invece tipo il Lupo Mannaro ha un'intelligenza artificiale che ti salta addosso proprio. Tutti i boss qui ce l'hanno, cioè esatto. Si muovono interamente. Cioè ti vengono addosso, mentre nell'altro avevano il loro percorso prestabilito e sparavano. Sì, fatta eccezione per gli ultimi tre boss, quali Gaibon, sì, okay, loro ti saltano addosso. Slogra e la morte in Super Castlevania 4 ti saltavano addosso. La morte fa un percorso prestabilito. La morte sì, però in realtà sono tutti i due lati dello schermo. Tu devi solo imparare a evitare le falci e quando cerca di attirarti per darti il colpo. Va bene. E direi anche che Dracula qui è molto più potente di quelli precedenti. Anche perché qui Dracula tira fuori la seconda trasformazione che dopo diventerà un hobby in tutti gli altri Castlevania. Cioè dopo la fa sempre. Sì. Invece in Super Castlevania 4 si incazzava e basta, andava più veloce. Una volta non sapeva fare. No, sapeva fare i fulmini. E oltretutto è anche problematico perché lo combattete in uno spazio ristretto pieno di buchi. Volevi dire qualcosa, Riccardo? No, niente. Sto commentando Dracula che impara, nel senso. Impara dagli errori, vai. Ogni volta lo battono, prima capirà che, cioè, che i suoi poteri sono illimitati e che potrebbe mettere trappole nella sua stanza. Ma infatti ogni volta che torna cambia il castello diversamente, cioè, i soldi ce li ha. Ma qui che è dopo il 4, lui ha fatto un castello più piccolo e semplice, nell'altro nel 4 sono 3000 cose. Non è che l'ha fatto, si è trasferito nell'altro. Sì, ma se tu guardi i Castlevania del futuro, lui la biblioteca della stanza dell'oro magari li tira fuori, qui non l'ha fatto. Qui ha fatto più semplice. Vabbè, dai, quelli del futuro sono, come diceva l'altro giorno, dei Metroidvania, quindi hanno tutto devono essere vastissimi. Sì. E però quindi si sono inventati anche stanze che non hanno molto senso. Diciamo che l'unica cosa che qui tiene veramente Dracula è la stanza della torre dell'orologio che se la porta sempre dietro. Sì, vabbè, se no non sa quando è l'alba e deve... Non sa che ore sono e quando arriva il cazzo di vampiri a ucciderlo. Vabbè, chiudiamo la parentesi Dracula X e diamo voto in banane. Io gli do 3 banane e mezzo, giusto perché è colpa della longevità. Se fosse stato più lungo avrebbe meritato anche un 4. Però una lode va. Non è neanche finito, quindi non... Cosa? Non puoi dire la longevità. Non è neanche finito. Vabbè, non ha battuto tutto. Sono arrivato al boss finale, va bene. Però tutti gli altri Castlevania che ho giocato li ho finiti. Non è vero, sì. Il 2 no. Il 2 non l'ho giocato. E poi non si capisce un cazzo. E anche con le 64 non hai finito. Quello lì non si capisce nulla. Tu inizi e sono scheletro gigante. Che scusa, ragazzi. Che scusa. Poi mi hanno detto che è anche corto quello lì. Però io ho finito tutti quelli del DS, Super Castlevania 4 e anche il 3, che è quello con i bivi. Un lode va alla grafica in Castlevania Dracula X, che è molto ben curato. Non c'è uno stage uguale all'altro. Beh, anche nel 4 non c'era. Però anche qui la differenza è più, si vede di più. Cioè, non ce n'è proprio uno uguale all'altro. Perché te la ridi? Oh. Chi ride? Ah, non so, hai riso. Vabbè. Marco, c'è ancora? Sì. Ok. Sono sempre qui. Perfetto, allora cercherò di andare corto su quello che volevo parlare, perché siamo durati un sacco oggi, non è un problema. E tocca a me. Io pensavo di parlare sempre da PlayStation 2 anche stavolta. La prossima volta prometto che cambio console, perché sto parlando solo di Play 2. Il gioco è un beat'em up. Obsoleta. Oh, vabbè. È obsoleta. No, non è obsoleta. Si trovano benissimo quelli da Play 2. Trovi i giochi di casa di 60 centesimi, dai, che è obsoleto. Al GameStop, pubblicità al GameStop. I giochi da PlayStation 2 li trovi anche a 1 euro. Ascolta, Earthbound ti costa 2,50 dello SNES. The Bouncer ti costa 10 euro. Vorrà dire che il Super Nintendo è superiore alla PlayStation 2. Sì. E lo sanno tutti, infatti. Aspetta che cambio canzone. Ok. Allora, volevo parlare di un beat'em up 3D, che è The Bouncer. The Bouncer è, come tutti i giochi di cui parlo io, uno di quelli che la critica ha stroncato, praticamente. E le motivazioni, bene o male, ci sono. Perché The Bouncer è un esperimento della Squaresoft, ovvero quella che fu la più grande casa di JRPG degli anni 90 e che adesso fa le cose più schifose che si possono vedere, perché si è unificata alla Enix, ovvero un branco di incapaci. Concordo. Prima di unificarsi alla Enix, però, ha avuto... riuscì a far uscire Final Fantasy X e Kingdom Hearts 1 e The Bouncer. The Bouncer è un esperimento, diciamo, anche se la Squaresoft qualche altro esperimento l'aveva fatto negli anni 90. E, utilizzando il loro tipico stile grafico, che poi è diventato quello che useranno tutti, bene o male, nei JRPG, hanno provato a fare un beat'em up, ovvero un genere che, diciamo, non ha molta fortuna dopo la morte delle sale giochi. Anche se qualche bel beat'em up 3D come Fighting Force 1 e 2 e... aspetta, quello della Sega era... Die Hard, quello di Die Hard, sono molto carini. Allora, The Bouncer esce nel 2001, quindi è uno dei primi giochi della PlayStation 2, bene o male, e ci porta in un mondo che ricorda molto quello di Final Fantasy VII. Infatti sembra di essere quasi a Midgar City, volendo. I protagonisti sono, ecco, già qui inizia a essere idiota, perché sono tre buttafuori di un bar molto piccolo. Cioè, sto bar ha i soldi per mettersi tre buttafuori. Vabbè. I buttafuori sono esperti di arti marziali. Sono Sion, il cognome non me lo ricordo in questo momento, Cole Layfield e Volt Kruger. Sion fa karate, mi sembra. Cole fa taekwondo e Volt fa misto wrestling e misto rissa da strada. E sono appunto i buttafuori di sto bar. La storia ci butta già qui. Noi abbiamo sti tre buttafuori. Sion si chiama Barzard di cognome. E lo stile qui lo dice bene. Ho il gioco originale, quindi sto leggendo dal libretto. Stile di combattimento: il Kenpo e lo street fighting. Volt fa wrestling e Ko fa taekwondo. Ci ho indovinato? Sì, fa taekwondo. Ci ho indovinato. Niente, praticamente abbiamo questi tre buttafuori che lavorano in questo bar molto Sons of Anarchy, biliardi, jukebox. E questa ragazza, che si chiama Dominic Cross, vabbè, diciamo anche il cognome, Dominic, che non me ne frega niente quanti anni ha. È importante, una 15 anni. Vabbè, Dominic Cross ha 15 anni, che è la loro amica. e gli porta, viene a fargli compagnia al bar e gli porta da mangiare, il solito. Comunque è molto amica di questi tre bouncer, butta fuori. Un giorno, mentre Dominic viene a trovarli, viene attaccata dai soldati della Mikado. Sì. Cioè, qua mi fanno vedere il libretto di The Bouncer, c'è la pubblicità all'orribile film di Final Fantasy. Non so se ve lo ricordate. Mikado non sono quei bastoncini. Cioè sì, sì, ma è il tipico cognome giapponese. Ah, ok. Mi stavo immaginando io soldati della Mikado. Vabbè, per finire, questa corporazione è diventata ricca con i bastoncini al cioccolato. Va bene. Che almeno. E la città, come Midgar City, Final Fantasy VII, è dominata dalla corporazione più grossa. Lì era la Shira Corporation, qui la Mikado Corporation. Oppure anche Tekken, ad esempio, c'è la... com'è che si chiama? La Nutella... La Mishima Zaikatsu, c'è lì, in Tekken. Va bene, va bene, basta. Non ne frega niente del libretto. Qua mi fanno vedere il libretto del gioco. E me lo ricordo, me lo ricordo. E, niente, la Mikado, i soldati della Mikado Corporation vengono a rapire Dominic, non si sa per quale motivo. Fanno un po' di rissa nel bar, spaccando il bar in cui lavorano, li butta fuori. E niente, il gioco viene introdotto così. Abbiamo sti tre buttafuori che guardano al piano di sopra, c'è Dominic. A un certo punto Dominic non c'è più perché vengono fuori sti ninja. E comandati da... come si chiama il loro capo? Mugetsu. Mugetsu. Mugetsu è un bel personaggio. Da questo ninja pazzoide chiamato Mugetsu. Mentre noi picchiamo Mugetsu e gli sgherri, Dominic la portano via. Il gioco è questo. Noi abbiamo i tre buttafuori che corrono per la città fino ad arrivare al palazzo della Mikado per recuperare Dominic, che è stata rapita per motivi ignoti. E la storia non si evolverà molto di più, vi dico subito. Il gioco più che altro è un film d'animazione, un film, come si chiama, quella tecnica per fare i filmati. Vabbè, è un film con i filmati in cui ogni tanto picchiamo dei boss e gli sgherri dei boss. È un quick time event. È infatti il gioco è molto promettente, anche perché la grafica è bella, le idee ci sono tutte, ma il difetto è questo. Cioè, alla fine noi siamo più che altro degli spettatori di lunga cutscene. Ah, infatti. E alla fine il gioco è anche corto, molto molto corto. In un giorno lo finisci tre volte, volendo. Madonna. Ok, andiamo avanti. Allora, parliamo del gameplay. La rincorsa... dei tre bouncer ai soldati della Mikado porterà diverse missioncine, che sono dei piccoli stage 3D in cui combatti gli sgherri fino ad arrivare alla fine al boss. All'inizio di questi stage ti viene scelto quale dei tre personaggi vuoi usare, perché c'è un sistema di leveling dei personaggi che ricorda molto gli RPG, in cui alla fine missione, a seconda di quanto botte hai dato, di quante poke ne hai preso, di quante combo hai fatto, ti vengono dati dei punti per potenziare o le statistiche del personaggio o comprare le nuove tecniche, che sono fatte a mo' di picchiaduro. Hai le combinazioni di tasti. E anche qui i personaggi sono diversi. Ad esempio Volt ha tanta potenza e tanta vita, ma è lentissimo, mi sembra. Sion è equilibrato, Kou è veloce, toglie poco e ha la vita media, mi sembra. E in più le tecniche, vabbè, cambiano. Ad esempio, facendo wrestling, Volt avrà delle gran prese, tipo Power Bomb Suplex. Sion ha le mosse da karate, da street fighting, quindi ha dei gran calci e pugni che ti spingono via. E Kou ha uno stile taekwondo, quindi ha dei gran calcioni e delle mosse, anche mosse sotto missione, mi sembra ovvio. E niente, livellando i personaggi li rende più forti e quello che non usi invece ti segue come NPC e prende delle botte sostanzialmente. Il gioco usa i due personaggi che non usi in questi stage, ma li usa malissimo, e tu vedi i tuoi compagni che sono sempre per terra a prendere delle botte. E non usandoli rimangono deboli. Quindi se a un certo punto del gioco dici: oh, adesso questo boss voglio usare Volt che non l'ho ancora usato, ti ritrovi un personaggio che sa fare una mossa base e ha le statistiche standard. E quindi il boss te le dà di brutto. Quindi devi continuare a cambiare personaggi praticamente. No, perché se tu vuoi sbloccare i personaggi segreti ti tocca fare la storia tutta con un personaggio. Perché il gioco punta sul farti rigiocare la storia più volte per aumentare la longevità. Ah. Quindi per avere i personaggi segreti tocca fare la storia con tutti i personaggi. Niente, battendo i boss solitamente li sblocchi perché c'è anche la modalità arcade nel gioco e i boss sono giocabili in quella modalità. E anche qui per ampliare il numero di personaggi hanno fatto dei boss che hanno forme diverse, chiamiamole, tipo Mugetsu, il primo boss, c'è in tre forme mi sembra addirittura, due forme, il boss finale c'è in tre, ecco, e in realtà cambia il costume bene o male, sì vabbè, una cambia il costume e ha delle mosse in meno, va bene. E niente, la storia un pochino si evolverà, ma poco e niente, scopriamo chi è il cattivo, scopriamo cosa vuole da Dominic. E niente, in tre ore si finisce il gioco, si vedono dei personaggi che sono belli, il character design è molto bello. E niente, alcuni personaggi si sbloccano battendoli, altri finendo il gioco con un personaggio, perché se certe cutscene o certi boss li incontriamo con un personaggio... scopriamo che lui lo conosce già e vediamo un po' di flashback. Ad esempio, Kou ha una missione da fare, è lì con loro per un certo motivo. Volt conosce uno dei boss e Sion conosce un boss e in più, vabbè, c'è un altro flashback. Tutto questo in funzione di trovare i personaggi segreti per la modalità arcade, solo esclusivamente per la modalità arcade. Una pecca della modalità arcade è che Sion, Volt e Kou sono standard e quindi non hanno le mosse che gli hai comprato nella modalità storia. Giustamente anche, perché sennò sarebbero più forti, visto che tutti i personaggi che non sono loro tre hanno quattro mosse e statistiche molto basse, oltretutto. Gli stage per la modalità arcade sono carini, questo è da dire. Poi la modalità arcade ha anche qualche variabile carina, tipo che puoi fare team battle, che devi battere... ognuno si prende più di un personaggio e li batti uno alla volta, oppure puoi fare tipo Royal Rumble, che arrivano tutti i personaggi e devi batterli tutti. E, oppure c'era anche un'altra modalità che era... ah, le vite, mi sembra. Non sono sicuro ci sia anche quella vite, tipo Smash Bros. Ma non ne sono sicuro perché vado a ricordo. Ok, niente, The Bouncer è questo. Tante buone idee, tante adesso, qualche buona idea. Grafica molto bella, motore molto buono, personaggi abbastanza ben sviluppati, più graficamente che altro. In un gioco corto, dove dobbiamo fare poco e guardare più che altro delle cutscene, dove la difficoltà è molto bassa, a parte il boss finale che le dà di santa ragione. E niente, è questo, è un gioco che vorrebbe farsi rigiocare ma forse non ci riesce. In più non fu un gran successo, ma era lo stesso difficile da trovare. Io l'ho cercato per 3 anni tipo e non l'ho trovato, e i negozi di videogiochi, che non erano il GameStop perché non c'era il GameStop allora, non me lo volevano ordinare. Non vi so dire perché, ma più che successo direi che è di poco successo. Forlì, di cui non dirò il nome, disse vabbè, il Magic Store di Forlì disse: noi no, la vecchia gestione, non la nuova, non parliamo male della nuova, era la vecchia gestione, mi disse: questo gioco non vale la pena di ordinarlo. Perché era uscito da 2 anni. E fortunatamente lo stesso amico che mi regalò, non mi prestò Ephemera Fantasia e mi vendette a 3 euro The Frozen Throne, riuscì a procurarsi The Bouncer e ci giocava una settimana, poi me l'ha venduto a 10 euro mi sembra. Ho comprato io, non te l'ha venduto. Vabbè, l'ha venduta a te a 10 euro. Ma non è vero, io l'ho comprato, vabbè. Ah, l'hai comprato te? Sì. Non è la copia di Gianni? No. Ah, ok, pensavo fosse la copia di Gianni. Ah, allora no. L'ha comprato lui al GameStop, allora. Vedi, GameStop l'ha dato. Sempre il GameStop alla fine. Sì, l'anno scorso, quando i giochi a Play 2 non valevano niente. Pensavo me l'essere venduto Gianni. Vabbè. E niente, è così. Purtroppo The Bouncer... Allora, se lo pagate 10 euro, meno 10 euro, e avete una PlayStation 2 ovviamente, compratelo, perché una volta finita la storia, la modalità arcade può essere molto divertente. Tutto qui, non c'è nient'altro da aggiungere. The Bouncer, purtroppo, di cose, poteva essere molto meglio. Infatti tutte le recensioni iniziano, poteva essere molto meglio. E The Bouncer, dai, diamogli due, perché uno è veramente basso. Però due solo per la modalità arcade. Niente, abbiamo parlato di The Bouncer, un beat'em up. Ecco, questa sarà tipo l'ultima volta che parliamo di beat'em up, perché ce ne sono veramente pochi. No, fare Super Nintendo sai quanti ce ne sono. Vabbè. Ok. Adesso apriamo il siparietto, dei giochi freeware, perché ho degli argomenti molto simpatici. E qui interagite anche voi, così ne parliamo più approfonditamente, ok? Ok. Ok. Allora, volevo parlare di della casa di produzione Screen 7, delle sue iniziative e dei due giochi usciti quest'anno collegati con AGS, che sono The Visitor e The Visitor 2, che secondo me, non contando i miei giochi ovviamente, sono i migliori giochi di AGS fatti quest'anno. Allora, iniziamo parlando dei bundle. Praticamente, mi sembra a Natale, la comunità di AGS fece un bundle di videogiochi, ovvero un pacchetto di videogiochi, per un'iniziativa che si chiamava AGS Back Sale, che serviva per raccogliere fondi che sarebbero tutti stati donati in beneficenza per comprare giocattoli agli orfanotrofi. L'iniziativa andò molto bene, partecipano 5 game maker abbastanza famosi. Anche quello che si crede, mi sembra ci fosse anche quello che dice di essere della Square Enix. Mi sembra ci fosse anche lui. Quindi anche la Square Enix ha partecipato. Sì, quindi inconsciamente hanno partecipato pure loro. E hanno raccolto un sacco di fondi che sono stati tutti devoluti in beneficenza. Quindi la Screen 7, subito dopo, ha visto che i bundle funzionavano e ha proposto un nuovo bundle che si chiamava Summer Batch Bundle, e infatti è uscito ad agosto per questo summer, dove tutti i game maker che volevano partecipare potevano dirlo semplicemente, e se per la data di scadenza il loro progetto era finito e stabile, entrava nel Summer Batch. Come funziona questo Summer Batch? Tu lo puoi comprare, puoi pagarlo quanto ti pare. Mi sembra che il minimo sia 2 sterline. E lo compri e hai 5 avventure grafiche. I soldi che dai, adesso vi dico anche quanto hanno raccolto, se mi ritrovo il sito. I soldi che dai al Summer Batch vengono, ogni 500 sterline, 50 vengono date all'associazione, si chiama, adesso ve lo dico, è un'associazione comunque di beneficenza. Ma adesso ve lo dico, immagino sia una grande associazione. Non l'avevo mai sentita prima, perché però fanno una bella cosa. Aspetta, ho sbagliato. Dove sono i dati di vendita? I dati di vendita. Game purchase, mi sa che è qui. Ah, è qui. Quanto costa? Statistiche. L'associazione si chiama, porca vacca, oh, sto sbagliando tutto, arrivo. Special Effect, ecco. Ed è un'associazione che cerca di far giocare ai videogiochi i ragazzi e i bambini che hanno dei problemi fisici. Creando anche periferiche apposta per chi non potrebbe giocare normalmente, ad esempio. Si chiama Special Effect, dico anche il sito, se vuoi dare un'occhiata alla foto. Specialeffect.org.uk, è infatti inglese, e aiuta i bambini con degli handicap o con dei problemi vari, anche fisici, a poter giocare ai videogiochi che normalmente non potrebbero giocare, ad esempio. E quindi, no, dite. No, niente, stavo guardando le foto, infatti. Anche io non lo sapevo che esisteva, l'ho scoperto grazie a loro. Ecco, se vai su se clicchi sul loro sito su Gamebase fa vedere anche dei video, mi sembra. Ma anche sulla pagina iniziale c'è un video. E come vi dicevo, addirittura fanno delle periferiche apposta per loro per giocare. Dei periferiche hardware. Infatti è una gran bella iniziativa. E appunto, comprando questo Summer Batch, ogni 500 sterline 50 vanno a questa associazione, mentre tutto il resto viene diviso equamente tra i creatori dei giochi. Fino adesso si possono vedere anche le statistiche. Sono state vendute 784 copie del Summer Batch, dei quali i creatori dei giochi hanno preso fino adesso 281 sterline, mentre in carità per questa Special Ethics sono andate 150 sterline. Sono stato ipnotizzato da un video dove c'è uno che sta giocando a Call of Duty con una periferica. Adesso non si capisce bene, probabilmente non deve avere un braccio questo qua. Sì, ho visto. Infatti sta usando il mento per spostarsi. No, per pazzesca questa cosa qua, una cosa... È che io parlo sempre bene della Germania per certe cose, sugli indie game e queste iniziative qui, invece anche l'Inghilterra ha salfato su, solo l'Italia fa schifo. Vabbè. L'Italia, se ti possono affossare, lo fanno, fine. Funziona così. Le buone idee vanno in eccesso, perché i soldi vanno nel calcio, nella droga di Vasco Rossi e... Nel calcio della droga di Vasco Rossi. e nella politica. Anche ieri sono stato alla riunione alla riunione del WWF e ho scoperto degli intrallazzi politici di soldi che, guarda, lasciamo perdere. Non ne parliamo in questa sede, ma a Forlì è un tutto un magna magna. Ok. Ah, mi sa, penso che ovunque sia così. Cambia sì, il discorso. Però... Sì, sì, ovviamente da così dappertutto, però su certe cose non penseresti che riescono a mangiarci, invece anche su certe cose. Ti dico, alla riunione del WWF ne parlavamo, quindi. Che è World Wrestling Federation, ovviamente. Sì. Vabbè. Adesso sono anche socio del WWF, attenzione. Io sono stato socio del WWF. Io sono stato socio del WWF. Sì. Sì. La sua famiglia era con... Ah, sì. Voleva tessere. Forse l'ho ancora... Tra due settimane devo andare a fare degli eventi nelle scuole, infatti. Vabbè. Ritorniamo al discorso. Comunque, questo Summer Batch verrà fatto, non so, ogni 6 mesi, suppongo. Questo qui finirà tra 55 giorni, siete ancora in tempo a comprarlo. Non mi ricordo se il minimo è 2 sterline, ma mi sembra di sì. Forse il minimo è, lo decidete addirittura voi. È un po' come l'Humble Bundle. Sì, è uguale all'Humble Bundle. E il concetto è sempre quello. Sì. E a Natale dovrebbe esserci anche il nuovo AGS Back Sale, quello dove tutti i soldi vengono dati all'acquisto di giocattoli per i bambini per gli orfanotrofi. E quello mi sembra raccolse $5,000, per quello è americano, non è inglese. Ok, quindi questa cosa è stata più che altro organizzata da Screen7, che è questa, adesso vi dico il sito, che è di Screen7, che è www. Ah, niente, sempre Summer. Vabbè, forse nel sito di Summerbatch cliccando su Screen7 ve lo apre. Comunque, praticamente vi spiegano la loro storia. Screen7 nasce alla fine degli anni 90 per fare avventure grafiche. Ne hanno fatta una sola che era 2.5 prima persona, una di quelle classiche horror di cui siamo abituati. E poi sono stati zitti per anni, hanno fatto film, video, musica e cose così, finché con AGS, diciamo, e anche qualcos'altro, hanno avuto l'occasione per... ritornare un po' in auge e si sono praticamente presi carico della produzione e della distribuzione online di certi giochi che, diciamo, ne valevano la pena. Tipo, c'è questo A Night at Camp Ravenwood si chiama, che è una sorta di Venerdì 13, non so se avete presente i film con Jason. Sì, sì. Fatto però come Monkey Island. Sì, con sembra molto Monkey Island 1. Sì, sembra Mealy Island, infatti. Con lo mi ridici il titolo? A Night... Ah, A Night... At Camp... Sì. Ravenwood, Corvo Foresta, sì. Ravenwood. Sì, sì, Ravenwood. Sì, sembra Monkey Island o coso, comunque volendo. Maniac Mansion con la grafica più degli anni di Monkey Island 1, di Secret. Oppure stanno facendo una specie di Larry, di Jesus Sweet Larry, che si chiama Kinky Island, che è un progetto che era morto anni fa e l'hanno rigalvanizzato. E poi stanno... The Cat Lady stanno facendo, che è un'avventura grafica molto seria. Non mi ricordo la trama in questo momento. Comunque è un... Qui lo definisce gotico urbano e dalla grafica posso assicurarvi che è la definizione giusta. È molto bella la grafica. Fa un po' pugni i personaggi... Fanno un po' pugni i personaggi con gli sfondi, eh. E di The Cat Lady c'è già la demo, se volete provarlo. E tutti questi giochi che vi sto dicendo sono a pagamento, saranno a pagamento. Ah, ecco. Mentre... Stavo cercando proprio quello, io. Gratis, ecco, adesso vi parlo di quelli gratis. La Screen 7 presenta The Visitor e The Visitor 2 di Nicky Nice, un game maker molto simpatico e disponibile. Che quest'anno ha fatto questi due giochi, che secondo me sono i migliori giochi di AGS di quest'anno, altro che Ben Jordan 8. E questi sono gratis, innanzitutto. Si chiamano The Visitor e The Visitor 2, solo che se li cerchi su... Devi scrivere anche AGS, perché se li cerchi su Google ti viene un gioco in flash irridicolo, dove sei una specie di vermino spaziale. Invece in questi qui sei i classici alieni verdi... Panciuti. Con la busta. Che nell'uno la vicina di casa del protagonista definisce uno, quando descrive l'alieno, dice anche che ha la pancia da birra. In effetti ce l'hanno. E, niente, questi The Visitor e The Visitor 2 sono due giochi veramente, veramente ben fatti. The Visitor l'ho finito ieri usando la soluzione, se no non lo finivo in un giorno. Il 2 ci sto giocando adesso ed è tre volte più lungo praticamente. E sono molto simili a Maniac Mansion per certi aspetti. Ad esempio l'impostazione delle stanze è molto simile a Maniac Mansion. E nel 2 anche il fatto che hai più personaggi e più inventari. E la storia è molto divertente, c'è molto humor. I personaggi sono simpatici perché l'alieno protagonista, ad esempio, l'agente Moss... allo stesso tempo è spietato con gli esseri umani ed è stupido, ma stupido tanto. Cioè, per loro, per gli altri alieni, lui è uno stupido, però allo stesso tempo con gli umani è spietato e spesso ci sono scene splatter. E oltretutto non si sa perché agli alieni, anzi alla gente Moss, piace la musica techno, non so come faccia. Vabbè, gusti alieni. Quindi quando sarete nelle astronavi c'è sempre una musica techno. Fortunatamente si può spegnere. Beh. E gli enigmi sono molto... Sono tutti abbastanza logici. Ogni tanto si sfocia un pochino nell'assurdo, ma poco poco. Sono quasi tutti logici. E forse l'unica cosa che direi che è un po' tediosa è il fatto che vanno fatti tutti in fila. Cioè, nonostante tu sei libero per girare per quasi tutte le locazioni, non è che puoi iniziare un enigma e iniziare un altro nel frattempo. Ti tocca per forza farli tutti alla volta. E lì se ti perdi un attimo magari non sai più dove sbattere la testa. Nel muro. E sì. La colonna sonora purtroppo è abbastanza povera. Più che altro ci sono ogni tanto degli effetti sonori quando ci sono dei colpi di scena. E suoni ce ne sono molti, anche buoni, non sono i soliti suoni che trovi nei motori di ricerca di foni. Sono più originali? Non so, probabilmente sono alcuni, sì, alcuni urli ad esempio mi sa che sono originali, l'hanno fatti loro. Sì, quindi la console purtroppo è assente, è quasi assente, a parte la musica techno ogni tanto. Però è funzionale all'atmosfera, perché ogni tanto c'è l'alieno che spunta da dietro e ti fa... E va bene. Ogni tanto c'è qualcosa che deve spaventare, ad esempio. E niente, quindi sono due avventure grafiche che consiglio di giocare. La prima pesa 140 mega, mi sembra, la seconda una sessantina. Non so come faccia a pesare meno, visto che è 3 volte più grande. Magari hanno scoperto come comprimere il tutto un po' di più. Ah, niente, a parte i video la compressione è standard, quindi non... AGS comprime sempre standard. Ah. Forse i suoni, sì, forse hanno trovato per i suoni un formato migliore. Ad esempio, le musiche, se invece che farle in MP3 le fai in Ogg Vorbis, pesano la metà. Beh, però almeno dei Infatti, dettagli. l'1.1 c'ha questa cosa che supporta l'Ogg Vorbis, che aiuta tanto. Ok, quindi consiglio a tutti quelli che stanno cercando una vettura grafica gratis e tutto il resto, che abbia già giocato alle nostre, perché quelle Micio Sigone hanno la priorità su tutto. Ricordiamo il sito Giustamente. miciosigoneags.altervista.org. Stato te lo ricordi. Sì, adesso lo ricordo. E in più, The Visitor e The Visitor 2 sono un'ottima alternativa a... Per chi non vuole spendere dei soldi in questo momento. Giustamente. E tenete comunque d'occhio i vari bundle, Summer Batch, AGS Back Sale, quello che è, perché comunque ricordatevi che potete pagare quanto volete e questo, cioè nonostante bisogna pagare, bisogna pagare poco. E comunque parte va in beneficenza. Il che non è male. Sì, questo almeno aiuta, dai. Ok, avete qualcosa da aggiungere su queste iniziative, sui giochi The Visitor, se avete guardato gli screenshot magari? No, io stavo cercando Sicuramente nulla da aggiungere. il sito della Screen 7. Ah, sì, te lo do perché non è facile trovarlo. Infatti, perché io ho scritto, ma sono andato su un altro sito che non era quello giusto. www.screen7.co.uk Ah, ok. e quello vai a loro base. Per arrivare a visitor non c'è un pulsante, devi metterci tu i tag dopo la slash, mi sa. Fa Ah. No, vedere. adesso io ho scritto Visitor AGS e sono arrivato sul Game Database Ah sì, però c'è anche su proprio Google. il sito, Ah. che è quello che ti ho dato io, più devi mettere slash games slash visitor. Perché Ah. in quello della Screen 7 non c'è nessun tasto per andarci in quella sezione. Proprio a nasconderlo. Sì, games, no, slash games slash the visitor, non visitor, c'è anche Ah. the. E è carino, molto carino. E c'è la musica techno Oh per no! arrivare. Non riesco neanche a... riesco a vedere le immagini. Forse non è aggiornato Flash. No, no, è proprio la... Ho un po' di problemi di connessione. Faccio fatica a farle caricare. Ah, ok. Però dal sito di Visitor ci puoi andare a quello da Screen 7. A quello da Screen 7 non puoi tornare indietro. Puoi andare a quello di Visitor. Ah, una cosa dell'uno c'è la soluzione ed è nel forum di AGS. Nel topic del gioco. Del 2 la soluzione non c'è e non è facilissimo, quindi auguri. Io sto aspettando un Auguri. messaggio privato del creatore che glielo ho chiesto oggi come andare avanti, ma non mi ha ancora risposto. Eh beh. Gli ho detto però che sarebbe stato nel podcast. Ah, giù Buono. così almeno. Sì, è inglese, però Eh vabbè. sì, Beh, direi. Sì, non so quanto capirà. Beh, però l'episodio 1 c'è un mi piace che viene dall'America, quindi o è qualcuno che ha Quello è The cambiato. Path of the Pumpkin, non è lì. Magari è un italiano che abita in No, no, è quello America. del Ci hai podcast. Il mi pensato? piace dell'America è nel podcast. Magari è Riccardo che usa quei programmi per far sembrare che è americano, così può entrare su KickasTorrent No, e esatto. The Pirate Bay. Esatto, la baia, Pirate Bay. Ah, Pirate Bay è ora accessibile. Sì? Yes. E vai, abbiamo anche novità sulla pirateria, allora, bene. Ridendo cosa... scherzando, siamo arrivati a 2 ore e 15, eh. Infatti, gli argomenti sono finiti, mi sa che chiudiamo qui. Probabile. Avete qualche... anteprima per la prossima volta, avete già deciso cosa volete parlare? Ma io ho visto oggi che è uscito Black Mesa Source, che è il mod di Half-Life 2. Sì. Quello che ricrea tutto il primo capitolo, ed è già in coda di download. Mm-hmm. Sono, mi pare, 6 giga, quindi ci vuole un po'. Bene, quindi avremo una grande novità da recensire. Riccardo non faccio anticipazioni, non sa ancora cosa parlerà. Esatto. Io direi, ti andrebbe a parlare di Skyrim? Sì, probabile, potrei parlare di Skyrim. Ok, così potremo ridere dietro alla gente barbuta che insegue Draghi urlando. E alle 5.000 persone che hanno ricevuto una freccia in un cinema. No, sinceramente, io ho giocato solo a Morrowind, ma Skyrim la trama mi fa ridere, cioè è ridicolo, vabbè. No, perché? Alla fine vabbè, la prossima volta vi tengo le mie considerazioni la prossima volta, perché io e il fantasy abbiamo un rapporto molto duro. Va bene. Claudio, te sai cosa parlerai? Ah, porterò qualcosa sempre della Nintendo, magari una nuova console che non esiste ancora. Ti do 3 opzioni: o parli degli underdog, o parli di Bubsy, o parli di James Bond. Oddio. Oppure parli di Aero Zacrobot, un po' più su. Aero Zacrobot è bello, gli altri due sono delle cose scene. Se andatevi a vedere James Bond e Bubsy, perché c'è da ridere. No, Bubsy non è brutto, però è molto difficile. James Bond è una schifezza. Bubsy lo conosco. È l'unico gioco ad aver preso uno in una rivista degli anni 90 che non mi ricordo qual era. Io l'ho finito, però. Ha preso uno. Su 10. Ma magari torniamo sul mondo del NES, adesso vedrò. Va bene. E per me non lo so, però vi ho promesso che non parlerò della PlayStation 2, quindi o parlerò del GameCube o della GameCube. Già deciso. Allora, del GameCube, va benissimo. Del GameCube devo decidere se Eternal Darkness o Skies of Arcadia. O Luigi Mansion. No, Luigi Mansion no. O Skies of Arcadia, non mi ricordo il sottotitolo del GameCube. Non me lo ricordo più. Il sottotitolo del GameCube non me lo ricordo più. Ah, Eternal Arcadia, no. Quello è il titolo giapponese. Parla di Eternal Darkness, Camille. O Eternal Darkness, va bene. Sempre Eternal è. Quindi chiudiamo qui. Iniziamo qui i saluti. C'è la musica con King Roll che viene colpito, che fa oh, oh. Non so se la sentite, mi sa di no. Ok, Riccardo Prati inizia, Rick Sky inizia con i saluti, ma alla prossima. Ma alla prossima, ci vediamo nella prossima prossimo podcast, quello che è. Aspetta, dimmi. Senti? Sì, senti. Credo dovresti chiedere se gli altri sentono, perché gli spettatori devono sentire. No, ti chiedevo se sentivi l'effetto sonoro che avevo messo su, ma mi sa che non l'hai sentito. Sì, l'ho sentito, un po' basso, però... Ti ho fatto un Tiger Uppercut. Vabbè. Ok, Riccardo, risaluta. Ciao. Ok. Marco Girardi, gira 93. Ciao grandissimi. Claudio Turri, vice ammiraglio. Fatevi una cucchiaiata di anni 80. vabbè. Per via orale. Con la cioccolata. Cioccolata. E Pietro Turri, Mario Punk, vi saluta. Booyah!